Barisone è diventato vicepresidente, no? Crucia, è inutile che lei fa il saputello. Lei rimarrà anche fra 10 anni a dire tonnellate di male parole con la sua trasmissione, con il pezzo di merda che c'è a fianco. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ammetten groce alle babace alle libertà. Zanzare u Akbar, azzare u Akbar. È pericoloso. Se lei la incrociasse un islamico credente e la pigliasse a schiaffi, se li meriterebbe tutti. Lei è un insultatore di milioni e milioni di credenti e non si fanno queste cose. È pericoloso. Cruciani, sono Paco da Belluno. Hai capito che tu sei una razzista, te l'ho sempre detto Cruciani, tu sei come Mauro da Mantova, non so, qualche altro testa di cazzo Donato di Varese, tu sei uguale a loro. Sei una razzista, guarda. Sei una razzista, tu ai immigrati non ti piacciono gli immigrati, sei più forte di te, sei peggio di Salvini, guarda, vai a fanculo. Noi siamo musulmani seri 100% e ci crediamo, tu non credi un cazzo. Brucia, ma niente fosse pure ricchione. Ci sei pronto? Ah, i fenomeni, i grandi fenomeni, bravi, complimenti. Che vogliamo fare? Parolacce? Vogliamo fare? Che vogliamo fare? Parezzo! Non si entra nell'angolo rotture della zanzara! Allora, caro David, vengo ad apprendere che cosa? Ma non dalle colonne, come dire, di Libero, dalle colonne del giornale. Sono depresso, guarda. Ma depresso. Dalle colonne del Corriere della Sera. A proposito, come va il collo? Tutto bene? Depresso, tutto regolare depresso. Il collo? Ma sì, sì, il medico abbastanza. Dovrebbe fare un controllino prima che tu, no? Prima che tu faccia il tuo ingresso depresso, nella radio del sole, no? Moralmente depresso, proprio. Sì, ma depresso, cerca di tirarti depresso. Su, dai, che abbiamo bisogno di grande carica, di grande carica. Quando chiama qualche imbecille, vedrai che mi tiro su. No, allora, vengo ad apprendere che qualche negriero, cioè qualche trafficante di uomini, qualche scafista, qualche porco scafista, per convincere i cristiani o quelli che si professano cattolici, che vogliono fare la traversata. Del Mediterraneo, traversata, cioè, quei pochi chilometri. Cercare prima, la felicità. Sì, prima che vengano presi dalle ONG e portati in Italia. Ma dalla Guardia Costiera. E gentilmente portati in Italia. Dalla ma comunque, militare, lasciamo gentile. Perdere questo vecchio argomento. Mica il taxi, vengono, mica il 35-70. Quasi, siamo lì. Cioè, c'è un numero di telefono, gente si chiama, muore, lo scafista comunque, chiama. Scafista. Gente che muore nel Mediterraneo. Molto pochi ormai, chissà perché molto pochi. Sempre quasi contento. No, assolutamente. Incredibile. Assolutamente no, figurati. Non sono mai a favore della morte, né degli juventini, né dei migranti. Allora, questi scafisti, per convincere i cattolici, i credenti, i cristiani a fare la traversata, mostrano la foto del Papa. Mostrano la foto del Papa. Vabbè, questo. Amico mio, come mai? Ma come mai mostrano la foto del Papa? Mostrare la foto del Papa? Perché Papa... dicono con la foto di Bergoglio: in Italia sei il benvenuto. No, semplicemente dice un paese. Il Papa. Vabbè, cioè, ma dice qui c'è giusta. Qualcuno che ti accoglie, sei e il benvenuto. Far vedere lo la foto dice del anche... barone nero, secondo me non sono neanche chi è giustamente i migranti, il giocatore di felicità. Però sanno bene chi è Salvini, perché siccome la televisione cioè, la guardano anche loro, Al Jazeera, c'è un DG, non fanno vedere la foto di Salvini perché altrimenti si metterebbero paura. Assolutamente, no, paura. Beh, quello potrebbe essere essere un metodo, però tu dici quello, si allora, utilizzava come spauracchio. Esatto, confessione di un nigeriano: convincevo i cristiani a partire mostrando la foto di Bergoglio. In Italia sei il benvenuto. Cioè, Bergoglio utilizzato come esca. Ma esca di niente, esca. Quelli che sarebbero partiti a prescindere da quel che dice Bergoglio. A proposito di immigrazione, di Islam, tutte queste discussioni. Io che sono imbattuto in un programma, credo si chiami Dalla Vostra Parte, ma penso che ne parleremo diffusamente. Non riuscivo a dormire, a prendere sonno, ero depresso. No, forse Quinta allora, Colonna, forse Quinta la, Colonna. La Quinzon Colonna, come si dice in francese? La Quinta Colonna. La come quinta si dice in francese la Quinta Colonna? Come si dice la Quinzon? No, non mi ricordo. Cinque, come si dice? Cinque, bellissimo. La Cinquième Colonna. Bellissimo, vedi come suona diversamente. La Cinquième Colonna. Con il professor. Vabbè, allora? C'erano dei titoli straordinari. Stuprata nella falsa moschea. Tipo aggredita la nostra duce. Se tu guardi quello accadono delle cose terribili di cui in genere effettivamente non ti accorgi. Gasparri, le ONG, ecco, Gasparri, sono negrieri. Ecco, Gasparri, le ONG. Ieri era esattamente lì. Le ONG sono negrieri. Era dalla vostra parte. È la Quinta Colonna, scusami. Quinta Colonna. Ecco perché io definisco le organizzazioni non governative e tutta l'organizzazione del governo italiano un'organizzazione di negrieri che porta la gente in Italia per farla finire così. Questo è il razzismo della sinistra che governa il paese. Le ONG negrieri. Ma cosa c'è da sinistra? Ma te la rendi conto? La teoria gaspariana è questa. La teoria, cioè, una, gaspariana è una grande, come dire, un grande calderone in cui io conosco le teorie di Pasteur, ma non le teorie gaspariane, francamente. Le ONG fanno parte di un grande calderone appartenente al mondo della sinistra. Tanto l'ha buttata lì a cazzo. E c'era anche il signor Nur Allam. Come no, immancabile Nur. Maledetta, però ragazzi, senti quello che dice Nur Allam. I giornalisti maschi possono entrare sempre in moschea, le donne no con le mesturazioni. Senti. Vabbè, questo adesso. Signor Nur, capito però. Giornalisti maschi qualsiasi momento possono entrare dentro come si chiama alla moschea. Problema per le donne, per le mamme. Il problema è questo, perché religione islamica vieta entrare sala preghiera, cioè non è la preghiera, non possono entrare le donne. Perciò chiedono questo. No. Spiegate che in Italia le giornaliste donne lavorano, capisce? Le dovete spiegare. Sentiamo l'altra, non capisco che significa. Perché non mandate un maschio? Non vivi da. Quando c'è questo problema, manda un maschio. Siddiq Nur Allam. Perché semplicemente sono considerate impure durante quel periodo, durante quei giorni. Ti pare, ma non è normale? Ho capito, ti, ma non pare è obbligatorio? Una cosa normale? Scusami, secondo te è normale o no, ragazzi? Se quella religione prevede che durante il periodo cosiddetto mestruale di ciclo la donna per l'Islam, perché non sapete niente, questo è il punto. Che succede alla donna? Sono considerate impure, ma non è che devono essere lapidate. Considerate impure? Ho capito, perché, ma dice, ma perché il Papa si veste di bianco? E si veste di bianco. E dice, ma perché si deve vestire di bianco? No, ma io... Perché si chiama religione, capito? No, si vabbè, così. Capito, poi però. Voi credici o non credici? Allora, la donna, donna è considerata impura. Impura. Che cosa che non può ma fare? Ma è impura e quindi essendo non impura non può entrare in moschea. Non può entrare in moschea, ma vale anche per le donne musulmane, non solo per le donne italiane. Nel dubbio dice perdiamo gli uomini durante quel periodo là. Ma insomma, non mi pare una cosa ragazzi, però così terribile. E dai. Ma non è una discriminazione. A proposito, ragazzi, io voglio fare un pubblico elogio della signora Mussolini, Alessandra Mussolini, molto simpatica, che adorabile. Piglia per il culo, adorabile, piglia adorabile per il culo, l'abbiamo detto anche ieri, facendo sentire quella specie molto di canzone molto che ha fatto contro il movimento della brambilla, che lei non sopporta questa roba ridicola degli animalisti, questa roba patetica. Diciamolo tutto, è una cosa patetica. L'ultimo tragico Berlusconi accompagnato dalla brambilla, una cosa come magari... ha detto oggi Libero, mandiamo un cane al governo, com'è che ha detto oggi, c'è un titolo fantastico era di Libero ieri. In ogni caso, la Mussolini ci ha regalato queste splendide note ancora sul partito animalista. Tutto nuovo, tutto inedito, tutto nuovo. Mussolini piglia per il culo la brambilla e il suo movimento. Sentite. Amica, amico caro, elettore mio, se c'è in sorci un cane, un gatto, un ratto, dai il voto tuo. Amica, amico caro, elettore mio, questa volta puoi votare per cane tuo. Dai su ragazzi, è un genio. Dai su, è un genio. I sorci, dai, i sorci in politica, ma di che parliamo, dai, su. Vedi, se il nonno avesse fatto l'attore avremmo avuto meno danni. Perché Berlusconi non prende i sorci e li porta i sorci, le cose, le come si chiamano, le pantegane, queste enormi pantegane. Tu dici portare le top in Parlamento, questo vuol dire, le top. Sì, questo, e ti dirò di più, ti dirò di più, una cosa che mi hanno detto, era meglio quando c'erano le zoccole, Arcore, era meglio quando c'erano, ma non mi interessa, a Napoli li chiamano, i topi li chiamano. Era meglio quando ad Arcore questo non l'ho era capito. Piena di era pieno questo, di zoccole. Non capito, è meglio che non l'hai capito. I topi, meglio dice, Arcore piena di zoccole piuttosto di Arcore piena di brambilla e di questo? Io lo dico. Meglio Arcore piena di zoccole piuttosto che Arcore. Questa, no, un po' hard. No, perché questa, meglio Arcore, sto facendo un'esaltazione dei Berlusconi puttaniere. Meglio Arcore piena di zoccole piuttosto che Arcore piena di agnelli, gatti, cani e chi più ne ha più ne mette. Vedi, però sulla canzone della Mussolini anche la mia Filippina, che dovrebbe lavare i piatti e fare la cena, invece scrive: dottore, secondo me canzoni signora Mussolini sono cose più buone fatte da tutta famiglia, non crede? Vedi che anche la servitù è ben educata, l'antifascismo. Intanto ragazzi, ritorna il genio di Semproni. Beh, amico mio, Semproni, dovresti andare a trovare a Pescara, lo sai? Dovresti fare una serata a Pescara con Semproni, sarebbe il top assoluto. Come no? Perché assolutamente. È di Pescara, sto Semproni. Beh, certo che è di Pescara, amico mio, non sai un cazzo, non sai anni che lo mantiamo in onda e non sai nemmeno di dove. Ti chiedo scusa, no. So dove è nato Benedetto Croce, so di dove era Palmiro Togliatti, so di dove è Berlinguer. Ma Semproni è meglio, ma è meglio. Non so, chiedo scusa, non so di dove è Semproni. Senti, quest'ultima cosa è sulla riscoperta del pelo di figa. È straordinario. Dottore, forse è caso play aperitivo? No, ancora no, dai, presto. Dottore, è il caso di fare play aperitivo? No, direi di no. No, io dalla donna mi piace la gonna appena sopra il ginocchio. Anni 50. La classe, sì, quella è la donna. Il ricordo... Un pochettino di trucco leggero, poco trucco. Semplice. Ci piace immaginare. Poi non mi piacciono le donne, mo le donne si tagliano tutte le pile, a me piacciono le barbe proprio. È bello quando si hai calevo queste mutande, vedevi queste barbone, capisci? Ah madonna, è bello, poi se va tu, si tagliano tutte, di qua, di là, sopra, alla fine ci sta, vedi tutte spelacchiate, peggio del nuovo, che schifo, guarda, immagine. Che schifo. Giuseppe, ma tu lo sai che è tornato di moda il pelo? Onde che chiudete il cornuto? La Zanzara. A Berlusconi, gli unici animali che devono entrare ad Arcore sono le zoccole. Cioè, ma sta biscia ce l'avete apposta a dire sempre che va bene, che hanno ragione sti cazzo di musulmani. Ma ci rendiamo conto? Cioè, ma dove cazzo l'avete trovato? Ma va Renzo, ma vai un po' a fare in culo tu e loro, vai, vai, sto stronzo. Grande classe questo ascoltatore, grande classe. Questo? Io non ho capito. Grande classe. Parlava con te perché dice che sei vicino ai musulmani, queste cose qua. Sto stronzo, vaffanculo, vaffanculo. Che bella gente, che bello spaccato del paese. Oh, ci manda un messaggio il signor Mandarà. Signor Mandarà. Che, sostiene, di mente, che sì. Sostiene tra l'altro sì. Che il attentato di Manchester è tutto un falso, sì. Le logge massoniche, non so, d'accordo. Che altro, eccetera, eccetera. E questo lo sostiene dopo aver assunto i nuovi farmaci, immagino, o prima, perché lì c'è un problema di dosaggio. Ci comunque, manda un saluto, senti, ci manda un saluto. Naturalmente, noi adesso saremo accusati di essere complottisti, cospirazionisti. Probabilmente Giuseppe Cruciani, il mio amico della Zanzara, prenderà qualche frammento e lo trasmetterà. Io saluto affettuosamente il pubblico della Zanzara, Giuseppe Cruciani, Riccardo Poli, suo collaboratore, e il servo sionista David Parenzo. Li saluto tutti con affetto e amore. Il servo ha ucciso sionista. Poli in due minuti, capito? Cioè Poli, citato in questi contesti, viene massacrata la sua professionalità, capito? Il citato. Servo sionista. Servo sionista. Questo lo dice il malato, malato di mente, no? Ma tu lo sai che un altro malato che si chiama Marciano, che io ho soprannominato Merdanò. Merdanò, uno di quelli che pensa che esistono le scie chimiche. Le scie chimiche, certo, ci mancavano, ovvio. I complotti internazionali. Tutti gli attentati sono tutti finti, eccetera. Sai cosa sostiene? Sai cosa sostiene? Sostiene che è finta pure la storia dei genitori, gli antibiotici. il bambino morto. Tutto falso, secondo tutto finto anche il bambino. Tutto finto, morto. Non sì, si capisce perché. Certo, tutta no, una notizia falsa diffusa. Marcia no, non il cervello marcio. Si chiama marcia no, perché ha il cervello completamente marcio ormai. Dai, quindi marcia no, dai, capito? Su. Oh, un'ultima cosa prima di andare agli ascoltatori che vedo caldissimi qui. Molto bene. Caldissimi. Oggi si apre una nuova pagina di radiofonia. Allora, la Raggi, il sindaco di Roma Raggi. Ora ragazzi, sì, è vero che i 5 Stelle ormai hanno cambiato completamente pelle, no? Cioè prima erano per una cosa, poi per un'altra, prima erano a favore delle dimissioni subito anche in caso di indagini, ma siamo arrivati a questo, a quello che vi faccio sentire, cioè il sindaco di Roma Raggi dice che anche in caso di rinvio a giudizio non si dimette. Non si dimette. Cioè qui siamo ormai, ma noi siamo d'accordo, siamo a favore di questa cosa qua. Però amici miei, prima volevate la ghigliottina solamente per chi era indagato. Certo. Adesso, siccome avete il sindaco di Roma, siccome potrebbe essere rinviato a giudizio, che non significa assolutamente nulla, bisogna vedere sempre i reati, eccetera, eccetera, dite, beh, non mi dimetto nemmeno in caso di rinvio a giudizio. Brava, applauso. Però prima volevi impiccare le persone perché senza erano indagate. Dubbio. Bravissimo. Sindaca, nel caso di un rinvio a giudizio, come dice Di Maio, non c'è un rischio delle sue dimissioni? Guardi, stiamo parlando in questo momento di una cosa che non è attuale e comunque direi di no. Ah dai, su. Oh, Paco da Belluno ha chiamato, signor Paco. Signor Paco. Paco, giustamente, tu sei una pezza di merda, sei. No, oh, basta. Ce l'ho con te, Paco. Tu sei una pezza di merda. Sì, ma sei, cambia cara. Disco, dai. Bravo, cambia Paco. Disco. Tu cambia disco. Cambia disco. Tu sarebbe Cruciani, però, disco. Pacone. Specifica. Guarda che l'ultima volta che sei stato a Cortina. È andato bene, io sono a un'ora da Cortina. Volevo chi venire se ne frega. Lì a sputarti in faccia e dirti che sei una pezza di merda. Bravo, sei, ma lo fai alla radio uguale, dai, non c'è bisogno di venire a Cortina, poi ti faccio arrestare, che è brutto. Ma arrestare che? Arrestare che? Ti faccio arrestare te. A proposito, come va con i testimoni? Ma vai a fanculo, va. Come guarda, va? Tu vai avanti ancora Paco. Così a offendere i muslim, no? Tu vai ancora così a bravo, offendere i musulmani. Paco, è pacato, ma ragionato. Tu dove lasciare? Ma Cruciani, ma che pezza di cazzo sei? Dove lasciare stare i musulmani? Ma le religioni, lascia stare le religioni. Non sa parlare di religione. Mi pare sia un ascoltatore. Parla di tutto il cazzo che vuoi. Hai tutti quei stronzi là che chiamano, che dicono tutto quello che vogliono. Bravo, ma devi lasciare stare le religioni. Senti, le religioni a spada mi sembra, mi sembra molto pacato e ragionevole. Senti, Paco, di cazzo, devi lasciare stare le religioni. Le religioni devono stare i muslim. Tu lascia stare senti musulmani. A spada di fuoco tu devi lasciare stare i musulmani, sei un gran testa di cazzo, guarda, sei un bastardo, sì, guarda, ma che un linguaggio coglione che te no, finirai male, finirai male, è una minaccia, finirai male, una minaccia, non è una minaccia, no, non è una minaccia, una minaccia del senegalese, non è spada di fuoco muslim, non è una minaccia senegalese, non sono capace a far male, no, tu no, tu, ma puoi incitare le persone, non è una minaccia, ma vai a fanculo, minaccia, noi possiamo tu devi smetterla adesso, basta, se no io ti denuncio, guarda, va, denunciami, perché cosa, perché cosa, aspetta un attimo, fai anche tu Ramadan, come io ti denuncio per discriminazione, fai anche tu Ramadan, stai facendo Ramadan o no? A questo punto io ho fatto Ramadan fino a queste ore qua, me lo rovina per colpa tua, testa di cazzo, me lo rovina per colpa tua, perché a fare Ramadan non uno, questo comportamento, questa parola non è neanche uscire dalla bocca di uno che fa il Ramadan. Ma che vuol dire, scusa, non posso pronunciare la parola Ramadan, ma neanche insulti, io adesso tu mi hai mandato in tilt, no, mi hai fatto partire la brocca, ma perché? Io sono entrato in macchina questi giorni fa, mia moglie mi dice sempre Paco, la fai chiamare. Senti, ma tua moglie qua, l'italiana, quella di Paco, non chiamare Cruciani, non chiamare Cruciani, so che chiamare, so. Non chiamare Cruciani, non resisti. Io oggi non ce la faccio più, oggi non ce l'ho più fatta, guarda. Ma perché? Che ho detto oggi in particolare? Non ho detto niente. Guarda, sei un bastardo, guarda tu, ma lo puoi finire sì o no? A offendere il musli. Ma lo puoi finire sì o no? A parte che io piglio. Ma c'è tale religione! Lascia stare la religione, che cazzo c'è la religione? Senti. Ma lascia stare la religione, tutto quello che hai da parlare e devi stare a rompere il coglione a parlare la religione, a offendersi tutte le sere. Ma che cazzo fai? Ma sei fuori di testa? Ma tu hai dirigenti? Ma tu non puoi? Ma tu hai patroni? Ma tu non ma puoi? La gente non parla con te? Durante il Ramadan non si deve. Durante il Ramadan non si possono dire le parolacce. Durante l'hai fatto arrabbiare, l'hai fatto. Durante il Ramadan. Ma perché non ti fermano? Ma io lo so, ma quale gente là? Perché non ti fermano questi dirigenti? Ma chi mi ferma? Ma stai tranquillo. Ma perché non ti fermano il primo che sia troppo tardi? Tardi perché ma cosa? Ti ma troppo ma tardi per finire? Cosa? Senti, spada finire? Di fuoco, tu mi sei Fasta talmente simpatico. Altro, spada no? Di fuoco, tu mi sei no. Talmente simpatico. Ma che tu, io no, non mi sei simpatico. Che voglio per risolvere niente, la tua situazione con i testimoni di Geova. Dice che hai un problema. Ma vai a fanculo, guarda. Dove, ma tu devi andare avevi, a fare avevi, culo, io voglio risolvere il tuo problema. Culo, testa di cazzo, ma perché? Cosa ho detto? Piglio per il culo l'Islam. Piglio per il culo. Luciani. Scusami. Sei un testa di cazzo. Hai pregato oggi o no? Hai pregato o no? Hai pregato o no? Devi offendere. Tu devi smettere di offendere. Parla di tutto quello che vuoi e smetti di offendere. Io parlo di quello che voglio anche dell'Islam, ma anche di Muslim. Tu vai avanti ancora per un po' di giorni. Io ti mando la denuncia, cazzo. Ma non è, ma non è religione di. Sì, scusami. Benissimo. Ma che c'entra l'avvocato Paniz, che è amico mio? Che c'entra? Quello è amico mio, l'avvocato Paniz. Scusa, ma scusami, scusami, ma non è vero che è religione di Bashi, allora l'Islam? Fatto arrabbiare, allora è religione. Non è non è religione di Bashi l'Islam, allora, sentendo queste parole. Non è religione di Bashi. Sei tu che non sei in pace con te stesso. È religione di guerra, di odio. Sei tu che non sei in pace con te stesso. Sei tu che hai problemi. Non è religione di Bashi, sei anche sporco, sei brutto, schifoso, sporco anche. Sporco ogni tanto sia vero. Sono sporco, però ha ragione, dai. Sporco sei, guarda, non so io le donne che vanno. Non è allora religione di Bashi. Sporco come te. Non è religione di Bashi. Sporco come te, tu fanno le donne andare assieme a te. Aspetta un attimo, aspetta, aspetta, senti. Ma vai a fanculo. Il Ramadan riprende tra qualche minuto. Vai, spada di fuoco. Noi dobbiamo fermare l'Islam. L'Islam in Italia non deve esistere. Ma chi è il Papa? Ma chi è? Io sono Cristo. La Zanzara. Parenzo, hai rotto i coglioni, i fratelli musulmani, Kabakebji. Se questi qua ti prendono, ti squartano vivo, ti tagliano i coglioni e se li mangiano con il couscous. Hai capito o no? Hai capito o no? Perché tu sei riccione, tu sei, quell'erami, merda, quell'erami, tu sei riccione come Macron, come Macron. Truciani, come mai l'aereo della Juventus non può cadere e il Vesuvio può lavare i napoletani col fuoco? Beh, Cruciani, allora è vero che qualche conto in sospeso con qualche napoletano? Miserabili! David, quanto ce l'hai lungo il tuo zinna? Asmodeo, vai via! Allora ragazzi, che il mondo sia tutto, stia per concludersi, stia per finire, che siamo ormai agli sgoccioli. Speriamo, diciamo di la no. Verità. Sì, sì, siamo speriamo agli sgoccioli. Ragazzi, io ricevo una mail da un medico. Il quale mi dice: guardi, io le mando questa cosa qui, sì, che sconcerta anche me. Sconcerta anche me. C'è una persona che ha chiesto l'eutanasia del proprio criceto. L'eutanasia del criceto, amico mio. L'eutanasia del criceto. Scusami, l'eutanasia del criceto. Esatto, prestazione, okay. Qui, prestazione. Eutanasia criceto. Netto 64,28 euro. Imponibile 65,57. IVA 22%. Totale 80 euro. L'eutanasia del criceto. Io non so, magari soffriva, era necessaria, non lo so. Ma ci sono persone che chiedono l'eutanasia del criceto. Importante intanto fare l'eutanasia per gli umani, come direbbe il nostro amico Cappato. Cioè, appunto, esiste l'eutanasia del criceto, legale, perché c'è una fattura, prestazione eutanasia criceto, e non esiste l'eutanasia per gli uomini. L'altra cosa incredibile sono alcune frasi pronunciate da un deputato del Partito Democratico che tu conosci, perché la conosci dai tempi di Telelombardia, sì, sì, e di quando gravitavi in quest'area, di quando abitavi in questa zona, dove hai lasciato diverse amanti, secondo me. Diverse situazioni in sospeso. Ma come ti permetti? Secondo me tu non vuoi più tornare a Milano perché non vuoi essere rincorso dalle tue ex amanti milanesi. Ma guarda che sei veramente un cretino patentato. Questo qua me l'ha detto l'altro giorno una persona, lo sai, ha detto secondo me Parenzo. No, me l'ha detto. No, ma te lo dico subito, me l'ha detto il professore, come si chiama? Il mitologico critico d'arte, come si chiama? Quello milanese. Daverio, Daverio. Secondo me non vuole tornare a Milano, non vuole tornare, ti giuro, me l'ha detto, non vuole tornare a Milano perché le sue ex amanti milanesi, milanesi lo perseguiterebbero. Che siamo a una diffamazione plurima e aggravata. Il professor Daverio, no, il professor Daverio. Persona, figurati, allora, no, ma ha detto così, mi ha detto così. Allora, una tua, e tu giustamente hai rivelato tutto. Assolutamente, una tua conoscente che si chiama Gasparini del PD, sì, vabbè, quella che ha fatto passare l'emendamento che è una per senatrice adesso, ex sindaco di Cinisello Balsamo, se non ricordo male, ha fatto passare l'aumento dell'assegno di reversibilità della pensione dei parlamentari. Non è troppo difficile, ragazzi, eh? Pensione dei parlamentari. Pensione dei parlamentari che già andrebbe abolita, è addirittura c'è la reversibilità. Cioè può essere incassata anche dai familiari alla morte del deputato. Doppia vergogna. Se vale anche per gli doppia altri, vergogna. Si capisce perché non deve valere per gli altri. Potrebbe lavoratori. Essere aumentata del 20%, la reversibilità del 20%. Lo sai come la giustifica la signora Gasparini questa come cosa? Giustifica? Così i congiunti senza mezzi, cioè i congiunti senza mezzi economici, non finiranno a fare sguattere giardinieri. Non finiranno a fare sguattere giardinieri. Innanzitutto c'è un disprezzo pazzesco per il mestiere di giardiniere e di sguattera. Sguattera sarebbe, secondo la terminologia del nuovo PD, quello meno operaio e più snob, sarebbe praticamente il lavoro della donna di servizio, praticamente, sì, della no? colf, della collaboratrice della domestica. Esatto, questa signora dice sguattere. Sguattere. Così i congiunti senza mezzi non finiranno a fare giardinieri e sguattere. Poi scusa, non ho capito perché male c'è fare giardiniere. Non ho capito perché il congiunto di un deputato, il quale finisce di incassare vitalizio perché muore, non può fare il giardiniere. Perché non può fare il giardiniere? Me lo deve spiegare l'onorevole Gasparini. Perché non può fare il giardiniere il congiunto di un deputato? Perché non può fare la donna di servizio? Ma è incredibile questa frase qua. È incredibile. Incredibile, incredibile. Riccardo da Roma, dai Riccardo, vai. Eccoci, eccoci, sono Riccardo della maggioranza silenziosa, precisiamo subito. Vai, dimmi, dimmi. Allora, dimmi. Certo, bravo, allora andiamo subito al punto, Davide, non scandalizzarti troppo. A me sta maggioranza silenziosa comincia un po' a stancarmi, perché io faccio delle cose che non sono da maggioranza silenziosa. Tipo? Volevo raccontare, volevo raccontare proprio il fatto che io non posso fare a meno la mattina e la sera di scavarmi con le dita nel naso. No. Prendere le caccole e lanciarle in camera mia. No, ma perché è una cosa che io faccio sempre, Riccardo. Scusa, io non sono della maggioranza silenziosa, come sai, anzi, no, sono un avversario fiero. Rumorosa, sono un avversario fiero della maggioranza silenziosa, però devo dirti la verità: faccio la stessa cosa che fai tu. Io mi scaccolo continuamente e getto le caccole ovunque. La cosa più ovunque. Bella è quando tu stai a casa degli amici, lo fai a casa degli amici, gli amici dormono e tu glielo fai in camera comunque loro. Comunque sei delle cozzoni, no, ma non solo questo. Io schifose e zozze. Io spesso scavo dentro per cercare dei rimasugli, ma sì, sempre. Ma ragazzi, ma tu non sei della maggioranza silenziosa, Riccardo, tu non sei, fatelo dire, non sei della maggioranza silenziosa. No, Riccardo, la maggioranza silenziosa ma un po' rotti coglioni, dai. Scusa, Parenzo, appartiene alla maggioranza silenziosa, no, questo Riccardo? Che no, che te telefona per parlare di questo, dai, sicuramente, Riccardo, no. Quindi è un infiltrato. La mese scorso in radio a trovarti, dai. No, io. Però, ragazzi, allora, no, io sono, dico sono, una cosa, io scavo continuamente nel ma naso. Che schifo, ragazzi. Ragazzi, è così. Racconto la verità. Come sai, io racconto sempre la verità. Ma nessuno ti darà più la mano da oggi. Io scavo continuamente all'interno del naso. Ma perché siete orgogliosi di cose maleducate? Ma non è orgoglioso, è la realtà dei fatti, limpida, chiara, trasparente. Limpida, chiara, pura, la limpida, cioè la verità, cioè non c'è nulla di più esaltante, non c'è nulla di più liberatorio più della realtà, della verità, spiattellata della in zozzeria, faccia, spiattellata in faccia, detta, zozzi. Ridetta. Allora, quando gente uno scava dentro, zozza. Trova queste belle cose che si chiamano caccole, e ogni tanto fa delle piccole palline e tic, le butti spesso in giro, non è che gli vada a colpire qualcuno, non me ne frega niente, però le butti in giro, ma tanto sono, è roba che si ricicla, è roba che si elimina da sola, ma fa schifo, però ma non fa schifo, vai in bagno, è una roba naturale, e soffia il naso, no, schifoso, ma vabbè, devi avere sempre dietro qualcosa, fastidio, ma è più semplice prendere la è una cosa naturale, l'uomo è l'uomo, tutto il resto è tutto una suppellettile, è tutto un artificio, è tutta un'aggiunta, è tutta una cosa posticcia, cosa, no? Capito, io c'è una cosa che veramente non capisco, che ma cos'è? Ma veramente la cosa che mi fa, mi manda qual i è, matti, qual è la cosa, cos'è che, la, ti la cosa che mi manda, cos'è che ti manda i matti? Io capisco, la Filippina deve lavorare, perché continua a postare su internet, ha postato delle bottiglie di Dom Perignon, scrive, poi dicono che non lavoro, arrivate Ostlich e Velmut messo in flesco Dom Perignon 21:15 pronto, Dom Perignon, scusa, pronto appellitivo dottore, ma sta Filippina che continua a twittare, la Filippina di Parenzo, pubblicando anche delle foto, ma io non lo so, ma chi signora, cazzo ti regala Dom Perignon, scusa te, scusa, so, Dom Perignon, ah, poi dicono che non lavoro, arrivate ostriche che io non mangio, ciao, peraltro, ciao. Carlo Dalodi, vai Carlo, vai all'attacco, Carlo, vai all'attacco, vai all'attacco. Pronti? Dimmi. E sento che te, fratello Cristiani, sei proprio malato comunque. In che senso? Vabbè, scusa, spiegami. In tutti i sensi possibili e immaginabili. Ma che vuol le dire? Le calcole, lo squirting, ma non pisci nel lavandino. No, io veramente non ho mai pisciato nel lavandino, amico mio, te lo dico subito. Ma come no, non ti preoccupare. Ho raccolto diverse testimonianze su questo, ma ti dico, vuoi sapere meglio di me se pisci nel lavandino o no? Lo saprò io, no? Ma dai, piscina lavandino, dai, dici. Ma che ne sai? Comunque. Scusa, ma se ti dico di no, ma non avrei problemi, come sai, a dirlo, no, Parenzo, avrei problemi a dirlo? No, non credo, no, cioè, non ho mai pisciato nel lavandino, però ho raccolto diverse testimonianze e ho capito che è un'usanza di molte persone. Grande però indagine sociologica della zona. Ma pisci nel lavandino, insisto, guarda che è incredibile questo comunque, qua. Cioè, comunque, Carlo, come fai da Lodi a sapere che io piscio nel lavandino? Ascolta me. Vabbè, dimmi. Volevo dire Parenzo, sì. Ma Parenzo gli voglio bene io, ma parecchio, eh. Io per nulla a lei, però, comunque, perché manco però, la io tutte le sere che ascolto la Zanzara, perché la devi trattare? Non gli voglio bene per niente, per sto Carlo, perché? Uno non ascolta, me ne frega niente ascolta, di chi, non me ne frega nulla proprio di me, di Carlo, posso dirti? Non me ne frega niente, non mi frega un cazzo di Carlo Dalodi. Ma perché? È un mio diritto? Dico di Carlo Dalodi, Carlo Dalodi, io mi dai, veramente mangiare, io dai, mi faccio un bidet dai. Con Carlo Dalodi, non me ne frega niente. Ma perché niente. Devi fare un bidet con perché Carlo Dalodi? Perché non mi interessa quello che ha da dire, nulla, so già cosa dirà, perché è un miserabile. Non mi interessa. Ma che... quelli che chiamano non mi interessano, posso dirlo? No, non no. Mi interessa nessuno. Ma è sbagliato. Su 10 me ne interesserà uno che è l'unico ragionevole. Ma è sbagliato. A me interessa dai. Quelli che ascoltano, quelli che chiamano me ne fotto, me ne frego, mi fate anche schifo fisicamente, moralmente, per le vostre porcherie, per quello che dite, per le mogli con le quali vi accompagnate e che sopportano questo lerciume che avete dentro, no? E che tirate fuori in questa trasmissione che praticamente cos'è? È un detonatore di porcherie. No, lascia stare niente, mi fa schifo. Carlo, ecco, il primo è Carlo Dalodi. Carlo Dalodi mi fa schifo. Ma non ha parlato. E non anche ha detto Alodi niente. Ma lo so, a prescindere, anche a Lodi lo schifo. Dove è Alodi? Conosci Carlo? Mamma mia che schifo. Tutti, perché la maggioranza di quelli che abitano Lodi sono persone silenziosa, per bene. Maggioranza silenziosa. Certo, uno solo è Carlo Dalodi che va a fare una figura di merda a tutta la città, peraltro. E adesso parlerà la Zanzara. Vabbè, e Carlo, diventa... dimmi. Vabbè. Carlo, dimmi. Non mi ha rotto le palle, Parenzo. Non è la che parla. Dai, dimmi. Vai, dimmi. Io dicevo a Parenzo che gli voglio bene. Ma io però... no, non me ne frega niente. Vabbè, allora? Gli dicevo, tutte le sere che io ascolto la Zanzara, vabbè, abbiamo capito. Il 90% delle persone gli dice che è un coglione, Parenzo. Sì, no? Sì. Tutte le sere. Quelli allora... che telefonano, non quelli che ascoltano. E poi pensa che quelli che non chiamano perché non c'hanno tempo, non vabbè, c'hanno... allora vai veloce, Carlo, forza. Che vuoi dire? Parenzo, sei un coglione, comunque vada. Ma io, senso, però, lo sai perché? Io non sapevo che cosa avrebbe detto, ma sai che già dalla voce avevo intuito che l'idiota era al telefono? No, avevo già intuito che l'idiota era al telefono. Scusa, bravo. Carlo, tu che mestiere fai? Spiegami. Lavoro il più antico del mondo. Cioè, che fai? Guido il camion. Guido il camion. Beh, amico mio. Attenzione, io so... mi ha mandato un messaggio Simone Di Stefano di Casa Pound. Vi prego, sì, vi sto ascoltando con mia figlia, abbiate pietà. Caro signor Di Stefano, caro signor Di Stefano, abbia pietà anche lei tu, di educare all'antifascismo sua figlia, anziché dire, cioè, a noi come peggio, dobbiamo parlare. Peggio il fascismo delle parolacce. Non c'è dubbio, lo dico a Simone Di Stefano che mi scrive questo messaggio. Vi prego, vi sto ascoltando con mia figlia, abbiate pietà. Ti prego, Simone Di Stefano, spiega a tua figlia i valori dell'antifascismo. Che il valore dell'antifascismo sono valori nobili, anziché le ma cose. Ma quello è un po' nostalgico, ma saranno cazzi suoi, ma... no? Cioè, il capo di Casa Pound ha da essere un po' nostalgico, no? Ha da essere un po' nostalgico. La cosa incredibile è capire il legame che c'è tra il capo di Casa Pound e l'ebreo Parenzo. No, cioè, ma questa è la realtà. È che lo conosco. La realtà è questa. Ha purtroppo il mio numero e ogni tanto si permette di scrivermi. E io, che sono persone educate, non sono un fascista, ma sono educato. Si permette di scrivermi a Parenzo. Cioè, che una cosa fermo lì. Sei anche un ebreo. Allora, il vostro programma, tra parolacce, cazzo, vaffanculo, innanzitutto è di basso livello. La radio la fai tu, sei tu il fenomeno. Ti vogliono un fenomeno. Fenomeno. Ti vogliono un fenomeno. Fenomeno. Io non ho capito una cosa, ma che c'entra? Fenomeno sarai tu che guadagnerai 3-4 mila euro al mese, non io. Siete dei volgari e ignoranti. Questo è arrivato lui, Ivan. Non è sbagliato. È arrivato il censore, Ivan. Frate, fammi fare il fenomeno. Fenomeno. Vergognatevi! Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Enzo, io sono della maggioranza silenziosa. Adesso sto in ospedale, sto a riposo, però me ne ho bombata una. Scusami, pardon, ne ho schienata una. Posso continuare a fare parte della maggioranza silenziosa, sì? Grazie. Ormai fate schifo, state degenerando. Cioè, io mi vergogno di essere la voce di questa radio. Io mi vergogno di essere la voce di questa sigla, di questo programma di merda. Giuseppe, vaffanculo. Ma questo che era il signor Ianzante? Ianzante, signor Ianzante. Che ho incontrato per caso oggi, sono andato a prendere mio figlio a scuola, l'ho incontrato e mi ha visto: che fai qua, Parenzo? Io ho detto: registriamo una cosettina per il signor Cruciani, e lì per lì ha prodotto questo materiale. Io voglio risentire però la musichetta della la canzoncina della Mussolini, vi prego ragazzi. Non so da dove viene, me l'hanno mandata. Credo che fosse da Bruxelles. Era particolarmente canterina perché piglia per il culo il movimento della brambilla. Perché prende in giro, così sì, va fatto. Bisogna prendere per il culo questa bisogna follia. Prendere in giro un po', sempre sì, con grande rispetto delle autorità politiche, militari e civili. Però bisogna prendere per il culo e bisogna porre le basi per il movimento antianimalista pro umani. C'è gente che si occupa molto di più dei cani, dei gatti, sì, dei diritti, delle cose, piuttosto che di della vita di noi, delle persone, della vita persone, di noi migranti, ad esempio. Ma degli italiani in difficoltà adesso, tutti. Comunque, che dai, amica, amico caro, elettore mio, se c'è in sorci un cane, un gatto, un ratto, dai il voto tuo. Amica, amico caro, elettore mio, questa volta puoi votare per cane tuo. Allora andiamo a Milano, Umberto, vai, vai Umberto, vai. Pronto? Dimmi. Niente, io volevo solo fare un grande appello. Sì. Perché sicuramente tu stai degenerando con questa trasmissione. Sì, specialmente con i musulmani. Un appello ai musulmani, non ho capito. No, stai degenerando offendendo questi musulmani. Io non sto offendendo nessuno. Sì, lei gli stai offendendo. Ma questo lo dici tu, chi sei? Il tribunale della Cassazione? No, ascolta, tu puoi dire quello che vuoi. Io ti dico solo una cosa. Io adesso sicuramente sto andrò anche in procura per farti fermare, perché tu stai mettendo a repentaglio la vita. Fai parlare la gente, non essere impropotente. È una cosa incredibile, sto andando in procura. Adesso è chiusa la procura, tu stai mettendo a repentaglio la vita di quelli che stanno lavorando lì con te. C'è dietro. Te lo ricordi quello che è successo in Francia? Ma senti, amico mio, non dire stronzate, no, dai, amico, su. Amico mio, un cazzo. Ma cosa vai in procura? Cosa? Ma fa? Ma pensa a campare, a lavorare, ma non andare in procura. Guarda, io ti sto avvisando. Guarda, anche la segretaria che ha preso la mia telefonata prima. Sì. Lo sai che ha detto? Che ha detto? Anche noi ci stiamo pensando, ci stiamo preoccupando. La delazione. Avrai sulla coscienza tanta gente che... Ma figurati se le segretarie sono preoccupate. Non dire cazzate. Non fare sempre andando in procura. Abbassa la voce, ricordatelo queste cose. Ricordatelo. Ti ha avvisato. Però è buono perché monta la protesta nei confronti di Cruciani. Vedete, la maggioranza silenziosa si risveglia. Ma su che cosa, amico mio? Su che cosa? Ma chi muore? Ma che sei matto? Senti, Umberto, la realtà è questa. Io prendo per il culo. La realtà è che tu stai manovrando il tuo cervello. Sì, manovrando il mio cervello. Un'opinione nei tuoi confronti e di chi sta lì intorno a te a lavorare. Dici, amico mio, qui si piglia per il culo l'Islam, non mi fai parlare. Ma guarda che sono io che ti sto facendo parlare fino adesso, per mia grande liberalità. Vai in procura. Ma che fa poi in procura? Ragazzi, la realtà è una sola. In questa trasmissione c'è chi la pensa in maniera completamente diversa, come Parenzo da me, sulla religione, sull'Islam. Per esempio, io penso che l'Islam sia incompatibile con la democrazia. No, vabbè, chiaro, ma questo cosa l'Islam vuol dire? È incompatibile ma con la democrazia. Vuol dire, e ho il diritto, un milione di musulmani che sono in Italia. Che c'è? No, ma ho detto non che l'Islam dirlo. È incompatibile. Ma dico, scusa, ma quel milione di persone che vivono qui? Che se ma uno è pacifico, ma tranquillo. Ma che vuol dire pacifico? Ma io non voglio l'Islam dirti. È incompatibile con la democrazia. Basta, mi sta sui coglioni. La moglie deve chiarire, e anche lui, i loro rapporti con personaggi estremisti islamici. Chiariscano i loro rapporti. Ci sono un sacco di brave persone, un milione di musulmani che vivono qui, che vivono nelle nostre scuole con i nostri figli. Con la democrazia. Studiano qua, vivono qui, sono nati qui e praticano un culto diverso dal nostro. Pier da Verona, non mi interessa. Non ho intenzione di stare qua a sentire tutta sta gente. Non mi interessa, perché lo sento già dal tono della voce, questo mi dà sui nervi già, perché io ti do sui nervi. Si sento già Pier Garden era uno. Allora, intanto dico una roba, Bruciani, non cambiare mai, resta con questa tua libertà di pensiero perché è fantastica. Vabbè, forza, vai avanti. E invece voglio chiedere una cosa a Parenzo. Ecco qua, Pier, vedi, perché sapevo. Spiegaci perché quando sto spada di fuoco del cazzo urlava come un pazzo, ne diceva di tutti i colori, non hai difeso Cruciani. Ma perché deve difendere? Io mi difendo da solo, non c'è bisogno che lo difenda. Era d'accordo con la spada di fuoco. Era alterato per questi toni anti-Islam offensivi che ogni tanto vengono evocati in questa trasmissione. Quindi faceva la sua battaglia. Era d'accordo con Paco, spada di fuoco. Non ero d'accordo. Dicevo che però capisco un musulmano che si sente un po' offeso. I nostri figli, i suoi figli, lei ha figli? Pier da Verona, lei ha figli? Ha figli? Certo che ho figli. Ecco, i suoi figli vanno a scuola sicuramente con un ragazzino islamico. Sicuro. Quindi si abitui, che non è un criminale, non è un potenziale. Ma perché non vuoi andare? Non ho capito, non vuoi andare. Non vuoi che tuo figlio vada con gli islamici? No, assolutamente, è che nella scuola dove vanno i miei figli, per mille ragioni, non possono esserci gli islamici. Essendo una scuola cattolica, è difficile che si siano gli islamici, per cui proprio è impossibile. Vabbè, che lei ha fatto un'altra scelta. Vabbè, allora, Pierre, che vuoi dire? Io voglio dire che dovrebbe essere più obiettivo il nostro bravo Parenzo, perché sono non è vero, tu difendi a spada tratta delle situazioni che non si riescono a capire. Niente. Sì, tu difendi a spada tratta delle in base a quello che viene detto, non delle posizioni preconcette. No, tu hai delle posizioni adesso preconcette dove devi difendere i rom, i musulmani, li vedi come viene criminalizzato un intero gruppo, un'intera categoria. Vabbè, mi incavolo perché non questo non ciao, può Piero, essere Silvano Bergamo, vai Silvano. Sì, buonasera. Dimmi Silvano, dimmi. Niente, allora volevo dire che questo spada di fuoco opaco si sì. è rotto i coglioni, perciò vuol prendere la valigia e il cartone e tornare da dove è arrivato. Signor Paco. Esatto. Ci vorresti parlare per caso col signor Paco? Prendi la tua barchetta, come diceva il noto predico. Prendi la tua barchetta. Ciapa la barchetta. A quel mezzo supposta di Parenzo. Eccoci qua. Buonasera, grazie per aver chiamato. Quel mezzo supposta di Parenzo. Buonasera, saluti a casa. Comprando una barca, però lui dovrebbe fare al contrario, portarceli fuori dalle palle. Cioè, dovresti fare comprare una barca lo per scafista al contrario, che dovrebbe fare, portarceli fuori dalle palle, hai capito? Perché dopo rimane giù anche lui, così almeno ce lo togliamo, perché qua ormai sta ci sono problemi di alcolismo diffusi, vedo. Sì, ci sono grandi ragione, problemi di alcolismo diffusi, vedo. Tu sei come la sindaca di Cinisello, sì. No? Perché voi comunisti predicate bene ma razzolate male. Quali comunisti? Hai capito? Dove li vede i comunisti? Non ci sono più i comunisti. La sindaca di Cinisello non è comunista, predica bene e razzola male, hai visto? Si aumentano lo stipendio ed è il Partito Democratico ormai, con tutte queste manfrine. Voi comunisti predicate bene e razzolate male, e a Paco gli dovete dire che ci ha già rotto i coglioni, può prendere la barchetta e andarsene lui e tutti quelli come lui. Sì, ma il signor Paco è italiano, capito? Ha preso ecco, dettaglio. È italiano un caso, è italiano, io sono italiano. Lei è la vergogna dell'Italia. Dell'Italia, ad esempio. Italiani neri non ce ne sono. È pieno di italiani neri. Lei è la vergogna dell'Italia. Sono neri perché sono da quella parte politica. Ecco perché sono neri. In che senso? Sono neri perché sono nati in posti dove nascono neri. Silvano, che vuol dire? Ho capito. Aspetta, parla con Paco. Forum Integrazione. Signor Paco, vediamo se hai il coraggio di rispondere. Signor Paco, dalla vostra parte. Ma non risponde, Paco, Non risponde. Meno male perché ci aveva già rotto i coglioni prima. Eccolo qua. Però posso dire, questa iniziativa di Cruciani andrebbe anche bene se però ci fosse uno spiraglio di dialogo. Ci lanciamo dei ponti, come cioè, dice si il può Papa. Dialogare con Paco. Proviamo Silvano. A dialogare. Silvano, con Paco. No, ma cosa vuoi dialogare? Lui c'ha la sua idea, non puoi dialogare con quelli che hanno le idee come ma lui. Che idea? Quello vive cioè, qui, per esempio, per qua. Te l'Islam, guadagna che cos'è l'Islam? Allora, ascolta, qui che volete da Paco, ascolta, poveretto. Io ho 40 anni che vado in Inghilterra. Settimana scorsa, quando è successo l'attentato, io ero in Inghilterra. Ecco. Ma tu pensi che io 40 anni fa già non vedevo dove saremmo andati a finire? Lui, lo vedeva lui, capito? E perché dopo non l'hai scritto nella rivista dopo Limes? Dopo 40 anni che tutte le settimane vado in Inghilterra. Perché non l'hai scritto da qualche parte? Perché io non abbia visto loro e la loro integrazione. Loro e la loro integrazione. Lui, cioè non l'ha visto Blair, non l'ha visto la Thatcher. Aspetta. Paco? Eccomi qua. Paco? Eccomi qua. Paco? Sono qua. C'è Silvano che ti vuole parlare, Silvano da Bergamo. Lo hai sentito, questo è un ubriacone, uno che ha bevuto. No, sono un ubriacone, io c'ho solo non so quanto prosecco hai bevuto fino adesso. Aspetta, con ordine. Bravo, Paco. Paco, che cosa vuoi? Fate la sega. Paco, cosa vuoi dire a Silvano? Non ho tempo a perdere con te, ma è un cretino, non senti come parla. Perché è un cretino? Non senti come parla questo. Ma perché? Che ti ha fatto? Che ti ha detto? Non ho capito. Cioè, la barchetta, ma che barchetta? Cioè, ha detto che non sei italiano, ha detto che non... Tutta la bocca me ne vado, io per conto mio, me ne vado. Ma te ne vai perché hai un sacco di problemi tu e... a vivere con testa a cazzo come quello là a Bergamo, ma figurati, vedi come parla. Quanta prosecco ha bevuto oggi, quanto vino. Aspetta, Silvano. Io ti offro una cena. Così almeno vedo veramente che te ne vai. Almeno sono convinto che sei. Perché se ne deve andare? Lavora qui, ti paga pure la pensione. Ma cosa vuoi che paghi? Io che sono 45 anni che pago i tuoi tributi. Senti che voce hai. Io lavoro in Italia da 22 anni. Bravo. Io la casa l'ho comprato in Italia, E perché vuoi andare via? Perché Paco? Perché vuoi andare via? Spada di fuoco? Perché? Sentire questa testa di cazzo come quello là che parla, la pensa a te. Cioè, questo qua, io devo vivere in un paese con quel gente così. Silvano, Silvano, rispondi, perché deve prendere la barchetta questo qua? Perché deve prendere la barchetta? Perché con la sua mentalità non hai sentito prima cosa perché se non la pensi come loro, se non la pensi come loro. Questo è vero, però, Silvano. Ma che ti ha detto? Questo è vero, non si può fare ironia sull'Islam, per esempio. No, ha detto che non si... Ma io appoggio quello che dici, non, cioè, ognuno deve fare ironia e essere libero di dire quello che vuole. Anche questo di è giusto, dire, pago. Andare fuori dai coglioni. Esatto, pago. I miei figli vanno in recita in chiesa, i miei figli vanno anche in chiesa. Il prete allora? Del mio paese, vieni qua anche a casa mia. E allora? Sai cosa vuol dire? Pensa che allora? Cazzo, io non ho una mentalità, chiusa che devo fare. Esatto, cretino che fai altro. È Cruciani che deve smettere di offendere un muslim. Aridaie. È Cruciani che deve smettere di offendere un musulmano. Ma non è religione di Basci. Io non è... offendo né i cristiani né gli ebrei, non offendo nessuno, perché religione è un discorso. Silvano, ma Silvano, c'è un punto d'incontro tra voi, Silvano da Bergamo e Paco da Belluno, detto no, anche è spada è di fuoco. Silvano da Bergamo. Forse la spada di fuoco. Cioè, che te piace il pisello? Ti piace? Non ho capito. Sì, va. No. Il pisello per l'amor di Dio. Nel senso che quello sei superdo. Piace a Parenzo. Questo piace a Parenzo. Questo è grave, ecco quello che dici. Quello ecco è grave. Piace a Parenzo perché vedi come va d'accordo lui con Paco. Sei un briacone, guarda. Quando viene a trovarti, io lo so che Parenzo va a Cortina a trovare questo Paco. Cortina non c'è. Scusami, Bichiere, vai a dormire. Vai in giro per i bar, questi cretini qua. Scusami, Silvano. Vanno in giro per i bar a bere, guarda, non fanno altro che bere alcol. Ha ragione, vai in giro per i bar, Silvano. Scusami, Silvano. Questo Paco ha ragione. Silvano è un ubriacone, notorio. Stai dicendo che sei superdotato, prima mi hai detto. Ma figurati. No, perché hai parlato di spada di fuoco pure te? Stavo scherzando. È lo zimbello del paese. Dice che sei ubriaco, ma non mi sì, parlo, non mi sembra ubriaco. Cosa vuoi, è una persona ubriaco. sola. Allora, i comunisti e i musulmani, quando dici qualcosa contro di loro, dicono che sei ubriaco. Capito? Beh, questo pure è un'accusa pesante. La voce pesante, un po' sembra un'accusa pesante. Paco, è un'accusa pesante. Dire uno sei ubriaco. Se non leghi, tu sei come Salvini, come compagnia, come altre. La scusami, Paco, che cosa voti tu? Testa di cazzo. Dai, che cosa voti tu? Cosa voti? Tu cosa? In Italia, voti in Italia ogni tanto. Io voto 5 stelle. 5 stelle, ecco qua. Ecco. Vota 5 stelle, 5 stars. Cioè, vota come te. Assolutamente, come me. Sì, ecco. Sì. Io voto 5 stelle. Non va bene. Perché non voti PD, per esempio? No, non va bene. Perché non voti PD? Votato PD nel passato. Hai votato PD. Vota 5 per esempio, stelle. Salvini non voteresti mai, Salvini. Ma figurati. Ma io PD con Renzi non lo voto io. E Salvini? Il PD con Renzi non lo voto. Sì, ma ho io capito, Salvini stelle. Salvini mai, impossibile. Ma stiamo scherzando? Ma neanche col cazzo. Silvano, tu che voti? Tantissimo. Silvano, tu che voti? Non votare Salvini perché lo voto già io, gente come te non lo vogliamo. Eccolo là. Vabbè, ragazzi, come te non lo vogliamo. Vi saluto. Neanche come mezza supposta. Ecco. Ciao Silvano, ciao. Silvano. E fammi parlare, stronzo. La Zanzara. Peraltro sono anche ebreo, signor. Vabbè, comunque questo. Non mi interessa. Allora, ragazzi, abbiamo trasmesso un'altra puntata delle nostre, della serie Forum Immigrazione, caro Parenzo. Una cosa incredibile, dai, una cosa pazzesca. Detto questo, io trovo delle somiglianze. Sì. Delle somiglianze tra queste due cose. Ora, tu dimmi dove sono le differenze. Veramente è difficile. Se uno le ascolta queste due cose, dici: ma la differenza qual è alla fine? Questo è il canto di un muezzin durante il Ramadan. Senti, te lo faccio sentire. Aspetta, sarò fissato. Però siamo in periodo di Ramadan che dura un mese. Sì. Dura un mese. Cosa succede? Vediamo se lo sai. Cosa succede durante il digiuno? Ci sono un sacco ma di cose. Il digiuno di che cosa? Quando mi sono segnato dopo il tramonto. Mi sono segnato tutto. Dai, durante il giorno non l'ho studiata mangiare. La cosa. L'ho studiata per la prima cosa. L'ho studiata. Perché ti dà così fastidio? Non ho capito. Ma no, ma chi se ne frega? Ognuno fa quello che vuole. Perché senti il canto del muezzin. Ha garantito a loro il diritto a fare il Ramadan in luoghi adatti, cioè in moschee, non per strada. No, quella è un'altra cosa. Fatemelo a casa vostra. Le moschee bisogna vedere. Intanto senti questa cosa, senti che sei come l'Arabia Saudita, senti il muezzin. Bellissimo. E senti invece questo, senti. Mangio un vita da chiesta ragazzi, è uguale. È uguale. Neomelodici napoletani. È una cosa abbastanza incredibile. Cioè, passiamo a un periodo pre-melodici napoletani. Sì, ma si tratta di Tony Italia. Bruni, Fronne e Limone, amico mio. Cos'è? Ma è una cosa. Tony Bruni, Fronne e Limone, è una cosa che tu non sai. C'è cioè una cosa che appartiene scusa al passato dei neomelodici. Una roba incredibile. Sono uguali. Identici. Io rimango fermo a Calcutta, ti chiedo scusa se non conosco. Marco da Roma, cose. Vai Marco. Marco da Roma. Pronto? Dimmi Marco, dimmi. Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Volevo solo porre una domanda a Parenzo. Non so perché, ma merito... anche questo qui mi sta sulle palle, già proprio da tutto. Lo so che comunque sentiamo. Sulle palle. No, ma così le chiedo scusa, guardi, ma è più forte di me. Io amo quelli che non chiamano. Cioè quelli che non chiamano sono brave persone, ma cioè perché? La ma maggioranza silenziosa, attimo, sentiamo. Dai, Marco, non sono prevenuto, sto porgendo solo una domanda. Dai, dimmi. Dicevo, ritornando al discorso delle donne che con ciclo mestruale sono infette, sono impure. Anche per l'ebraismo, se non mi sbaglio. Sì, per chi è religioso. Vabbè, allora, sicuramente sono sì. Follie, no, dai, volevo sono follie. Sapere, dai. Volevo capire il perché delle sue considerazioni. Ma non sono considerazioni, le posso dire una cosa in più che le creerà ancora più curiosità e speriamo così se lo vada a studiare con calma. Addirittura, per una persona religiosa, per un uomo religioso, quando incontri una donna ebrea per strada, nel dubbio che abbia, diciamo così, il suo ciclo, non le puoi dare la mano. Dubbio perché tu non puoi conto sapere ma perché quando impura una donna se ha il ciclo. No. Allora, perché questa impura? È una cosa, ma perché è impura? È una cosa antica. Ci vorrebbe come, il tuo amico come, rabbino. Come ci vorrebbe il tuo amico rabbino. Beh, lui te lo può spiegare perché, ma è una cosa cioè, antica. Per esempio, tu con la donna col mestro puoi fare l'amore? No, per la religione ebraica teoricamente non si può. No. Se ma tu l'hai fatto qualche cioè volta? Cioè, perché anche dottore, il pane agimo. Dottore, veloce, è arrivato professore Zagrebelsky. Dottore, scusa, puoi lasciare perché stasera abbiamo la cena. Parenzo. Stasera abbiamo il professor Zagrebelsky a cena, ma lo sai, no? No? Sì, no, sì, professor Zagrebelsky. Dottore, è arrivato professore, vuole parlare di costituzione. Dottore, chiudele prima. No, ma perché non c'è. Anche il pane agimo è nato così, senza lievito. Sì, c'è anche la sua testa di cazzo, però diciamocela tutta. Ma perché oltre la testa di cazzo? Perché lei ha letto due o tre cose e le butta lì per, come provocazione, come gli stai dando la testa di cazzo? Perché è un provocatore. Ci sono un sacco di cose ho capito, ma sono due religioni. Ma certo, ma sono due religioni monoteiste che hanno alcune cose in comune, la macellazione ma della carne comune, rispetto vabbè alla monoteista cristiana. Andate a fare in culo tutti e due. Ah, esatto. Fermi. Mi feci fare un pompelmo ed era un fiato, ma tu sapessi che goduria. David sta andando a trance, David sta andando a trance, non c'è niente di male, è eterosessuale. David sta andando a trance, David sta andando a trance, David non è cattivo, ma a volte un po' passivo, ma solo con Ezebal. Ah, e vabbè, vanno a trance, se si divertono a prenderlo a quel posto, che io... La Zanzara. Questi sono estremisti uguali. Esageriamo adesso, non è che sono estremisti uguali. Cioè... Vorrei ricordare a te e a tutti i miserabili che telefonano, quelli all'ascolto sono brave persone, che la cultura, ad esempio, araba è la stessa che ci ha portato quello straordinario racconto che sono le mille e una notte. Non attaccare il pippone. Erotici, peraltro straordinari. Le mille e non una notte. Non attaccare il pippone, tu ricordi ti prego. La principessa Scheherazade, la principessa che racconta al sultano le sue storie. Non che le mille e una notte sono frutto di quella cultura lì. Questi maiali, diciamola tutta, questi maiali che chiamano, che dicono che fanno sesso, gangbang, cose eccetera, e che non si vergognano, in realtà avessero almeno letto le mille e una notte si sarebbero eccitati per un motivo letterario, dai, e invece su. No, sono soltanto dei porci maiali razzisti e non sanno che le mille e una notte è uno dei più grandi libri, del più grande contributo che la cultura ma araba ha dato. Ma sei arrivato a citare mille e una notte, ma sei patetico, dai. Sapessero Gloria da Venezia, dai Gloria, dai. Manca solo Gloria. Ciao ragazzi, ragazzi, dai, ciao, volevo chiedere a Parenzo, sì, perché si odia tanto noi che chiamiamo, a parte il fatto che ho letto Mille e una notte, da un bellissimo libro, brava, ma perché critici, cioè, no, critici, ma non lei, no no, lei ad esempio ha anche una voce molto gradevole, si capisce che è una brava persona, abita credo a Venezia, quindi è anche una persona illuminata, si capisce insomma che ha un bel tono di voce, ma si capisce anche dell'approccio che ha. Io ce le ho con gli altri, quelli che quel 90% di gente sola che chiama perché è appena stata al bar, ha bevuto, la moglie non vuole tornare a casa perché c'ha la moglie con la fiatella e quindi dice, ma piuttosto che tornare a casa da mia moglie con la fiatella tutta grassa, schifosa, che mi dice cosa hai fatto, hai chiamato la zanzara, preferisce telefonare qui, quindi questi frustrati qui, però il resto è gente per bene. Gloria da Venezia ha una bella voce, un bel sorriso, anche un bel mi pare, no? E quindi è una persona gradevole, persona che poi la può pensare diversamente da me, ma mi pare una bella persona. Gloria, tu squirti? Ecco la domanda. Chiesto, signora Gloria. Gloria, dimmi, dimmelo sinceramente, dimmelo in maniera così molto sincera, molto sì, ecco, sì. La risposta è poi, sì. A sentire questa trasmissione, pare che il 90% delle donne che chiamano qua, guarda che questo è incredibile. Ma no, ma adesso non sarà vero. Qual è la prova, Gloria? Qual è la prova? Come, quella è la prova? Non so, non ho prove. Come offri una, mostrarlo? Dimmi qualche cosa sullo squirting, perché altrimenti non possiamo credere così. No, prima no. Millantato diventa dai, una su, come facciamo? Cioè, beh, abbiamo già parlato nell'altra puntata, avete già parlato con Sara, mi pare, dello squirting, ha già spiegato tutto quanto, quindi potrei riutilizzare le sue informazioni. Sì, no, e ma non devi dirmi qualcosa vero. Che mi fa capire che è vero, che mi fa capire che è vero. Cioè, l'ultima volta, cioè, il tuo è uno squirting continuo ad ogni rapporto oppure dipende dall'uomo? No, non è continuo, dipende, nel senso, dalla stimolazione, da come mi sento, è un insieme di cose. Ma tu che fai? Quanti anni hai, Gloria? Non ho capito. Io ho 23 anni e studio relazioni internazionali. Beh, amico mio, lo vedi? Lo vedi? 23 anni e studia relazioni internazionali. Ma avevo capito subito che era una brava persona. Non ho capito perché il camionista non va bene e invece lei perché studia relazioni internazionali va bene? No, tanti camionisti che non telefonano qui, perché ti chiamano sempre quattro dementi di camionisti. Quattro dementi sono. Vabbè, Gloria, cosa vuoi aggiungere al tuo profilo, diciamo, oltre al fatto che squirti, che mi sembra una cosa fondamentale. Relazioni internazionali, Venezia e tutto, fidanzata, sposata, libera. Se volete ve lo dico, sono fidanzata con un uomo che ha una moglie e una figlia. Questo è buono, però lui dice siamo assieme, non vuole divorziare, non ho capito perché. Ecco, non diciamo il nome di questo uomo, così solo per questo. No, però scusami, No, ma tanto la moglie vive all'estero, non può sentire. La moglie è dunque libertà di scopare. Questi sono spaccati pazzeschi. Allora, io... È un particolare la situazione. Cioè lei ha 23 anni, signora? Sì, quanti anni ha lui? Quanti anni ha lui? Quello è il problema, ne ha un pochino in più, il doppio. Vabbè, 46, ma noi siamo abituati. 46? Siamo abituati, lo signor Bagatta ha 28 anni di più quasi. Adesso siamo stati Bagatta. Ma scusi, e come pensa possa come dire, coronare il vostro sogno? Come si ma può perché quella vuole scopare con questo? Perché gli frega coronare il sogno? Ma vuole coronare il sogno ma magari. No, ma 46 anni è lei giovanissimo pensa, lui, ad esempio, no? Di fare un figlio con questo suo nuovo compagno? È una domanda molto seria. Noi stiamo assieme ormai da 3 anni, da quando io ne avevo 21, cioè adesso ne faccio 24, sì, e stanno cambiando le cose, chiaramente io sto crescendo, certo. Sua figlia fra poco ha quasi la mia età, nel senso inizia. Quanti anni ha la figlia, scusa? 16, è del 2001. 16 anni. Ma lei vorrebbe intraprendere una storia seria, immagino, con quest'uomo che evidentemente ama molto, e questo è anche bello che noi registriamo questo. La storia è seria. Poi ti permetti, è seria la storia. Sì, no, infatti. Però tu vuoi che molli sta moglie, no? Vuoi che molli sta moglie? Molliamola sta moglie, su, amico mio. Ma all'inizio ci speravo, all'inizio devo adesso dire non te ne frega niente. Adesso non me ne frega niente, ma proprio detto apertamente, se la vuole tenere che se la tenga, tanto vive in un altro stato. L'importante è che non mi lasci col culo per terra, cioè nel senso... Che vuoi sordi, non ho capito. Come? Vuoi sordi, che vuoi, non ho capito, non mi lasci col culo per terra. Ma lui così, sta con me, nel senso stiamo assieme, basta. Sì, però amica mia, c'hai 23 anni, ma che te frega di metterti in queste situazioni qua? Ma goditi la vita, ma che ti frega? Ma me la godo! Ma sei fedele o no? Non sei fedele a lui? Sì. Ma si può parlare con questo signore oppure no? Speriamo che sia certo, fedele. È qua. Sta guidando, ragazzi. Allora, lui conta sul fatto, punta sul fatto che la moglie è all'estero. E dunque no. È una grande ascoltatrice della trasmissione. L'unico legame con l'Italia è la Zanzara. La Zanzara, diciamo, chiaro. Ma come facciamo a credere a questa storia noi di uno che ha la moglie all'estero? Voi in diretta dite che no. Non vuole parlare, non vuole, però quale senso avrebbe mentire? No, così, sai, per inventare una storia. Però voglio dire una cosa, questa, sì, non motivo, questa storia come andrà a finire secondo te? Ecco, questo è interessante. Questo non lo sappiamo, stiamo lavorando su... Io adesso finisco la magistrale e poi vedremo che cosa fare, perché le nostre priorità stanno cambiando, cioè abbiamo età diverse, dunque... obiettivi diversi, nel senso lui adesso ma sta vivete finendo... insieme, no? No, io ma ho il mio appartamento e lui ha il suo. Ma lui c'ha il suo, poi c'ha la moglie, dov'è? In che paese abita la moglie? Beh, questo magari. Non posso dirlo, mi ha detto che non posso dirlo. 46 certo. anni, 23 anni, quanti figli ha lui? Una. Una figlia di anni 16, abbiamo detto. Lui ha una professione avviata, no? Tu sei ancora. No. No, lui no, che è disoccupato, lui, non ho capito. Sì. Cioè, morto di fame pure, te lo sei scelto. No, ma dai, ma ti pare, no? Cioè, i soldi li ha, però non lavora. Beh, stupendo, i soldi ha, non lavora. Tu hai 23 no, anni, sei ancora in mezzo alla strada, devi finire l'università. Anche tu sarai ricca di famiglia, o no? No, però non sto male. Non stai male, cioè non fate un cazzo tutte e due dalla mattina alla sera, questo mi pare di capire. Non fate un cazzo, vi divertite, è normale che sia così. Sei praticamente concubina, cioè si sta consumando. Si sta consumando, questo è un rapporto per gli avvocati, per tutte le persone all'ascolto. Si sta consumando un qualcosa di gravissimo, una specie di adulterio live. Ma che te ne frega te? Ma è chiarissimo quello che avviene. No, per carità, assolutamente no, figuriamoci, io sono stato con un sacco di donne sposate, con mi piace marito. La con la quale lei affronta questa cosa, anche la maturità con la quale, e sento anche dell'amore, però francamente, ma quindi no, questo... della spensieratezza, non dell'amore. Dura, sì, però dura. Io voglio dire 46-23 con tutte queste caratteristiche che abbiamo annunciato, sì, effettivamente 46, la storia mi pare tanto, No, ma quello non mi pare complicata, ecco, mi pare una cosa complicata che finirà sicuramente in un grande drammone, in una grande tregenda, ma in qualcosa di drammatico, tirare, tragico. Ma la vita è fatta così, quando inizia il dramma vi richiamo, ma la vita è fatta così, di un finale melodrammatico, tragico. Lui sicuramente torna con la moglie, con una figlia, eccetera, certamente finirà così, cioè la moglie sarà già, secondo me torna quella moglie, ma lo vedi che è così, cioè, ma certo, chiaro. Avrebbe divorziato, a te non te ne frega più niente, trombate bene o no? Almeno questo. Sì. Trombate bene. Devo dire di sì. È lui che ti ha fatto squirtare, ti ha fatto conoscere il meraviglioso mondo dello squirt. Purtroppo sono un po' precoce, ho imparato prima. Hai imparato prima? Con altre esperienze. Vabbè, comunque, sei precoce nel senso che sei una proprio che... Insomma, una porca tremenda, diciamo la verità. Ma perché gli devi dire così? Le devi dire così? Bravo, come bravo? Come si dice l'altra? È una porca pazzesca. Ma che clima è? Ma Gloria è una porca incredibile. Ma perché le devi dire così alla signora? Ma non è modo. Vabbè, ciao Gloria. Ciao. Ciao, ma ragazzi, non è modo. Arrivederci, ciao, signora. Ciao. Arrivederci. No, lo faccio perché invece trombare, oh. Come si vede che stasera non abbiamo un cazzo da dire, eh? Ah, è stupendo. Non ci sono argomenti che mi interessano di attualità, zero. In realtà è molto interessante questa battaglia che si sta giocando sulla questione della legge elettorale. Possiamo dedicare una parte di trasmissione a questo. Ne parlerò stasera a cena con il saluto da Grebelski, peraltro. Cioè, il tema è molto semplice. Come mai la segreteria telefonica di 3. Riproviamo. Allora, ad esempio, la rottura PD al mentre Fano, lasciamo parlare che... Parenzo mentre chiamiamo questa persona. Mentre chiamiamo no, questa. Ma la rottura PD al Fano, ad esempio, no? È un tema che merita di essere approfondito. Sì. Questi cialtroni questi personaggi incredibili del partito di Alfano adesso rompono i coglioni perché si sentono traditi da Renzi. Siccome no, non riescono ad arrivare al 5%, probabilmente, se vengono lasciati così. Io sono contentissimo di questa cosa. Non me ne frega nulla. L'unica cosa per cui sono contento, Italia, forza Vittorio Sgarbi. salutarmi, Vittorio, se mi ascolti, è il fatto che Alfano viene lasciato con le mutande in mutande. Ma sono qua, godo. Perché hanno leccato il culo a Renzi per una vita e Renzi alla fine li sta schifando. Hanno aderito a un progetto politico di riforma, perché devi dire banalizzare così? Amico mio, la realtà è questa, per le poltrone sono capaci di tutto, anche di dire che adesso la legislatura va portata fino in fondo. Il tema è approfondire questo tema tedesco. C'è niente da approfondire, io godo per questa cosa qua, lo sbarramento al 5% che costringe, sì vabbè abbiamo capito, che costringe Alfano ad andare lì col cappello in mano per trovare lo strapuntino alla candidatura, e nel PD non lo vuole nessuno, pensano che sia il gatto nero. Non lo vuole nessuno nel PD. Quanto godo, ragazzi, godo. Godete con me. Fuori Alfano dal Parlamento. Godete con me. Godete tutti. Godete tu. Fuori Alfano dal Parlamento. Io godo. Godo se succede. Godi per delle cose assurde, sì, tu sì, però. Beh, godo Zucchero, per Zucchero, se Zucchero e per Alfano fuori dal Parlamento. Ma guarda che sei godo, un malato. Godo, sei godo, godo. Alfano. Alfano, quella è pornografia, quella è essere miserabili, quella è pedofilia. Alfano è la pedofilia al potere, è il massimo dell'orrore. Luciani, ma ti pareva che con una merda come quel deficiente nano lì non ci fosse un gran coglione di comunista di merda? Ti spaccherò la faccia se non mi raccuoio. Comunista di merda? Non mi importa se non mi ami più. Quel nano malefico. Soltanto imparare a camminare, eh? Se non ci sei tu, comunista di merda, La Zanzara. Sono le 10.48, stiamo facendo un aperitivo bevendo del vino a volontà. Siamo solamente amici, stiamo parlando di squirting. La Zanzara ha invaso anche Bologna. Invaso Bologna. Ma che cazzo è la... lo squirting? Ma di cosa cazzo è composto? Troviamo una risposta o no? È pipì o non è pipì? Vogliamo saperlo, grazie. Qua giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara, da fallotto 00240024. Oppure se lui ti mandano i miei messaggi. Coppa WhatsApp 393-71-71-701. La Zanzara. Mi ritengo della maggioranza silenziosa, ma faccio un sacco di sogni erotici in cui c'è Cruciani. Parenzo, aiutami tu, che cosa mi sta succedendo? Stasera troppo in ritardo, troppo. È che sono arrivato qui al distributore, arrivava una nerina con un culo della Madonna, viene, ti guarda, tu vuoi scopare? No, andando a casa mi aspettano, dai 20 euro, bocca ficca 20 euro. E sicché ho fatto tardi, però Parenzio rimane un bigotto. Sei Asmodeo, sei. C'ho due chiappe, amore mio. Sì, ci sono una serie di ascoltatori. Chi era quello che abbaiava? Chi era che me l'ero dimenticato completamente? Ci sono una serie di ascoltatori impazziti per Gloria da Venezia, ve lo dico subito. È Gloria da Venezia che sta diventando il nuovo idolo, perché ha ascoltatori inconfessabili, professionisti serissimi. In svariati campi. Bagatta. Anche lui, naturalmente, ma non c'entra niente, non mi riferivo a lui. In vari campi, impazziti per la signora Gloria. Ma la signora... professionisti. Dunque, signora Gloria, tipo? Quando questo glielo dico tanto sta ascoltando. Allora, sto dicendo questo, quando lei avrà intenzione di lasciare quel mammozzo là di 46 anni che ancora sta con la moglie, con la ragazza, con la bambina di 16 anni, qui c'è una, come dire, una folta schiera di tifosi che la attendono a braccia aperte. Ma chi sono questi maiali che scrivono? Chi sono? Allora, C'è un signore, caro Parenzo, sì, che si chiama Manetti. Che Manetti. Si chiama Manetti. Te lo ricordi chi è questo Manetti? L'abbiamo già intervistato una volta. Mi sta facendo girare i coglioni questo Manetti. Lo sai perché mi sta facendo girare i coglioni? Carlo Manetti è un professore dell'università di Torino, l'università della terza età. Adesso bisognerebbe capire da questi signori della terza età, ma che cosa cazzo mandano a fare? Cioè, perché cosa prendono uno come Carlo Manetti? Che perché sarà una persona rispettabile. È un signore che alla mia età, ma sembra che abbia 100 anni di più, se vedi dalle foto. Carlo Manetti, un piemontese, torinese, credo. Un signore che, ripeto, lavora nell'azienda di famiglia che stampano della plastica, non so. In realtà poi non so come mai fa il professore all'università della terza età di Collegno, di Torino, tutte e due insieme. Carlo Manetti, ospite spesso della Fu Radio Padania, adesso Radio Calabria, che ha trasmigrato, lo sai, no? Ha trasmigrato. Come no? È sul web adesso, è sul web. E a fare danni sul web. Carlo Manetti, il quale pronuncia queste parole: accosta il mondo omosessuale dei gay alla pedofilia. Senti. Le organizzazioni LGBT e tutto il mondo LGBT ha una dichiarata apertura verso la pedofilia, oltre che verso le altre perversioni sessuali. E questo non lo dice Carlo Manetti, ma lo dice la più grande icona omosessualista d'Italia, che è il punto il suicida Mario Mieli. Che palle con sta storia di Mario Mieli. Allora, la gente se ne fotte di chi... Mario Mieli, una storia vecchia di uno dei principali protagonisti del mondo omosessuale. Sì, aveva le sue perversioni sicuramente. Vai. Ma cosa vuol dire? Ha detto delle cose. Non è che tutti gli omosessuali hanno delle tendenze pedofile. Ma cosa dici, Manetti? Cosa dici? Era uno dei personaggi più infami e ripugnanti del mondo. Poi lo cita dicendo: possiamo amare i bambini, siamo a livello di stupro. Sentiamo questa cosa. Carlo Manetti, ma che cazzo ne sa lui del mondo gay? Vi cito una frase che è scritta nel suo testo base, quello che è considerato la Bibbia degli omosessuali e dell'omosessualismo militante in Italia, che è Elementi di critica omosessuale, che a pagina 62 recita così: noi sì possiamo amare i bambini. Qui il termine amare non è niente di affettivo, siamo nella brutalità sessuale e dello stupro. Vabbè, io guarda, lo chiamo ancora perché mi sono incazzato veramente, cioè mi sono incazzato per questa cosa qua, cioè la cosa ridicola per cui si avvicina la pedofilia, la pedofilia all'omosessualità è una cosa incredibile. Esistono pedofili eterosessuali ed esistono pedofili omosessuali, punto e basta, punto e basta. Chiamiamo Manetti, che mi voglio incazzare stavolta. Allora Manetti, basta però, basta, qui è la zanzara, basta, basta, basta, basta. Ditemi tutto. Manetti, basta, ogni volta ci devi incolpare di qualche cosa. Cioè ogni volta. Non incolpati di nulla. Ma sì, mentiamo sapendo di mentire, c'è delle cose folli, delle cose folli. Sei diventato il paladino dell'omofobia. Hai avvicinato l'omosessualità alla pedofilia, ti dovresti vergognare. Non l'ho fatto io. Io ho citato un testo. Ma lascia perdere un testo. Ma tu hai accostato il mondo della pedofilia a quello dell'omosessualità. Ovviamente ci possono essere pedofili gay e pedofili eterosessuali. Dunque, di che parliamo? No. Lei sa chi è Mario Mieli? Ma chi se ne frega? Ma non frega niente a nessuno, Manetti, chi è Mario Mieli? Allora, se non me ne frega niente, perché vi scaldate tanto? No, ma ci scaldiamo perché lei dice follie, dice delle cose di una gravità inaudita. Si dovrebbe vergognare la mattina quando si guarda allo specchio. Questo è esagerato. Allora, secondo lei i gay sono una manica di perversi? Questo lei ha detto. Sono una manica di perversi, sì o no? No. Beh, come no? Una cosa molto diversa. Che l'omosessualità è oggettivamente contro natura. Se a me mi piace l'organo sessuale maschile, che cosa sono io? Una persona che ha un problema. Perché ha un problema? A me mi piace il pisello, che devo fare? Non è che mi piace, mi piace. Vabbè, adesso questo dico. No, ma così, per dire, in teoria, detto, Manetti, mi piace, che devo fare? Perché ho un problema? Lei ha vagamente presente che cos'è la natura umana. Sì, ok, ma perché non mi può piacere l'organo sessuale maschile, detto anche pisello, detto anche pene? Perché non mi può piacere? Mettiamo che ho un problema, come lo faccio a risolverlo secondo lei? Evitate che si può risolvere. In che modo? Come? Evidente, ci sono tutta una serie di terapie, sì, soprattutto di carattere psicologico, che per, oltre che di carattere spirituale ovviamente, sì, che permettono alla persona di uscire dall'omosessualità. Questo è un fatto. Cioè, attraverso la psicologia, un terapeuta, eccetera, si può uscire dall'omosessualità. Questo è un fatto. Ma non è un fatto, ma hai capito? Uno è uscito. No, attenzione, tanti sono usciti, questo può darvi fastidio. Io posso anche capire che vi possa dare fastidio. No, non me ne frega niente. L'importante è non considerare l'omosessualità una malattia. Lei la considera praticamente una malattia, diciamo la verità. Lei perché condanna, per esempio, il sesso anale? È peccato. Mia risposta è certamente sì, sempre ammesso che ci sia piena avvertenza e liberato consenso. Dal punto di vista lei della materia. Lei ha mai provato l'anale? Allora, quello che io fatto, non ho fatto, non sono questioni che riguardano né lei. Beh, importante, è importante. Questo può diventare dirimente. Scusi, professore, però è importante, certo, sapere questo uno come la pensa sul sesso. Questo è vero. Se ha, se ha una certa conoscenza, se non ce l'ha. Su questo se, è vero. Se no, altrimenti se uno... scusi. Attenzione. Lei, per esempio, ha mai fatto sesso a tre, lei? Ecco, anche questo è importante, questo, alla fine. Scusi, a lei che gliene frega. No, perché se uno l'ha fatto, se uno l'ha fatto, sa di che cosa sta parlando. Altrimenti, se uno non ha fatto niente alla propria vita, come fa a parlare? Sentito dire, è un po' difficile, no? Il principio è che se non si ha l'esperienza diretta, un minimo. Io ad esempio non ne parlo perché non lo so, il cosiddetto panino. Non conosce il Giappone, no? Beh, sa, un conto è leggerlo sui libri di geografia, un conto magari andarci direttamente. Quindi, tornando a bomba, il famoso panino, quello che il signor Cruciani chiama a tre, famoso panino, laddove il companatico, cioè, diciamo. Lei è sempre. Quante donne ha avuto nella vita? Anche questa non è una questione che riguarda. Ma è importante, se lei ha avuto solo una donna nella vita, e questo, questa è un'esperienza limitata della persona. È un'esperienza limitata, certo, professore. Scusi, questo certo. Scusi. Il modo che avete di trattare gli esseri umani. Gli esseri umani, adesso non esageriamo. Cioè, lei, per esempio, sa cos'è lo squirting? Non so cosa sia lo squirting, ma. Squirting con la R. Ma lei non lo sa. Noi per farci. Cioè, uno si deve fare una panoramica. Questa persona sa che quando parla di sesso, quando parla di sessualità, quando parla di omosessualità, sa di cosa si sta parlando o no? Mi sembra di capire che lei queste cose non le conosca, questo mondo non lo conosca, e questo è il punto. Cioè, certo, lei... un giorno o l'altro verrò a lezione da lei. È importante, se lei ascoltasse la Zanzara, imparerebbe un sacco di cose. Le gang bang, per esempio. No? Questa è una cosa, ad esempio, sulle quali io non ho esperienza, però immagino che, insomma... lei immagino che non sappia di cosa si sta parlando o no? Bene, qual è il problema? Qual è il problema? Mi dica. Sì, vediamo il problema. Lei non riesce ad affrontare un discorso se non nell'aggressione personale. Ma no, che aggressione. Questo è il punto. Questo è il punto di fondo. Sì, comunque, guardi, la realtà è una sola. È che lei, la realtà vera è che lei accosta l'omosessualità alla pedofilia. Questa è una vergogna. Questo è il punto. È una vergogna. Questo è vero. Però... questo dovrà fare una seduta spiritica. È più vergognoso questo piuttosto il fatto che io scherzo con lei sulle gangbang, sul sesso a tre, sull'anal, sullo squirting, cioè è molto più grave questo rispetto a un gioco in cui lei può sottrarsi tranquillamente dicendo no, guardi. La sua violenza è pubblica. Mia violenza è pubblica, lo dico io, lo dice quello che accosta, adesso mi incazzo. L'omosessualità, la pedofilia. Dai. Lei è padrone di fare tutto ciò che ritiene opportuno. Vabbè, Manetti, arrivederci, la ringrazio. Arrivederci. Saluti. Grazie. Arrivederlo, buona serata. A proposito di Islam e democrazia e religione di Bashe, vatti a vedere l'elenco delle pene previste nella Sharia, naturalmente poi applicata diversamente da paese a paese. Guardate che Sharia vuol dire crimini, tutto e niente. Crimini e pene. Crimini commessi e pene. Poi dimmi se sono, come dire, ma che ovviamente dire, se sono paesi a paesi. Crimini e pene vere. Ma che religione c'è, di Bashe, religione di Bashe. Guarda che se leggi qualunque testo, la religione la Bibbia, di Bashe. Ma se tu leggi no, la ma Bibbia, poi applicate così, negli stati, poi applicate sul serio, perché non teoriche. Sono stati teocratici, ma lascia, però sono l'Islam, delle dittature, però islamici, sono però delle islamici, dittature, però certamente islamici, sono dai. Delle dittature. Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità, la pubblicità. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. vi presenta La Zanzara. Talvolta mi perdo nello sguardo delle donne che trovo per strada e penso, chissà questa quanto squirterà. Questa sì, questa no, questa forse, questa sì, che squirtatrice. Talvolta mi perdo nello sguardo delle donne, talvolta. Come Macron. Allora, caro David, è andata sì. in onda Che D'Urso, durante la trasmissione della D'Urso, una battaglia incredibile tra sostenitori delle pornostar e avversari delle pornostar. Ah, però. Questo era il, questa era la divisione. Temi molto interessanti rispetto alla legge elettorale. Per sì, perché esempio. Magari uno può mettere in scena un confronto tra chi vuole il 5%, lo sbarramento, e chi invece non lo vuole. Ma molto più interessante chi considera, per esempio, le pornostar delle mignotte, come ha fatto, per esempio, la signora Patrizia Pellegrino. Te la ricordi la signora Patrizia Pellegrino? La ricordo, mio è un ex, diciamo, showgirl, un po' ormai un po' datata, un po' agé, direi, la quale si è messa contro la signora Malena e anche contro la signora Selene, entrambe invitate al salotto della D'Urso, che sono state praticamente accusate di essere delle prostitute, delle puttane. Signora ma Selene. tu condividerai no, adesso non questo ho sentito racconto gli argomenti, della Pellegrino. Non ho sentito gli argomenti di questa tensione, però allora, sono pronto ad ascoltarle. Tutto inizia da una scrittrice che si chiama Antonella Boralevi. La quale, sempre ospite Che D'Urso del salotto della D'Urso, dice che fare la pornostar non è una professione ma una umiliazione. Beh, insomma, non sei d'accordo tu, perché sei bigotto, come dice quell'ascoltatore. Mi sembra abbastanza vicino al mio pensiero. Boralevi. Scusate, non vorrei che passasse, come si dice in televisione, il messaggio che fare la pornostar sia una professione. Fare la pornostar non è un hobby. Umiliazione. Chi stabilisce quale professione migliore di un'altra? Chi fa la top ten delle professioni? Quale professione sia e quale no? Chi lo stabilisce? Esisto da signoretti. No. Ragazzi, è inutile che vi dica da che parte sto io, naturalmente. Ma io non è che dico che non so chi parlava, ma quale umiliazione, ma quale umiliazione, dai, quale umiliazione, Parenzo, sei veramente bigotto. No, ma sei se uno veramente vuole farlo, bigotto. Può fare quello che gli pare, un mestiere onesto come tutti gli altri. Certo, se fossi il padre di queste ragazze, ti sono molto franco, e tu penso la penserai anche con me, come me, avendo anche tu una figlia femmina. Beh, la cosa c'entra? Immenso dolore, se mia figlia credo, no? Non succederà, magari, non lo so, ecco, magari succederà. Ma allora vedi che sei borghese, no. Tu dovresti dire speriamo che Spero amico niente. Mio. Però se tra la cantante una lirica, professione, tra la cantante se la lirica, una professione come le altre, dovresti avere come ancora, cosa come che non è evidentemente, perché anche tu hai un ottimo tabù borghese, Totem e Tabù, grande libro che consiglio di rileggere. Allora, tra la cantante anche tu lirica, hai un tabù borghese, per fortuna, perché sei in un ambiente civile. No, se tua figlia sono un domani le pornostar? No, sono non loro, ma io immagino i loro padri e le loro madri, ma non è incivile, ma anche tu hai un tabù borghese, altrimenti lo considereresti un mestiere come gli altri, pronto anche per tua figlia, cosa che per fortuna non consideri. Io dico una cosa, io considero sullo stesso piano come, e non lo farà ovviamente tua come figlia, nobiltà, perché cresce in un ambiente diverso, lo considero quindi sullo stesso piano come nobiltà, come come dire, come valore sociale, la pornostar e la cantante lirica. Sì, ma non c'entra niente. Lo sai anche tu che se tua figlia un domani, o mia figlia, parlo della mia, se la mia dovesse, ma non accadrà ovviamente, perché spero che cresca, è cresciuta in un ambiente diverso. I genitori di Malena pensavano che la figlia avrebbe ecco fatto appunto, la pornostar. Ecco appunto, io immagino che fossi nei genitori di Malena starei malissimo, non è che la condannerei, però starei molto male, ma posso dire, ma anche tu penso, cioè, sto dicendo una cosa da maggioranza silenziosa. Che tua figlia si faccia adesso, in qualche modo incappettare a ripetizione il dettaglio di una, di una figlia punto, o anche di un figlio maschio, figurati che ne ho due, ma quindi tre in tutto. L'idea, uno farà il medico, l'altro farà il notaio, l'altro il magistrato. Ma che cazzo ne sai te? Ma che ma dici? Sì, ma così, sono piccoli, ma è impazzito. Uno farà il notaio, uno sarà donna magistrato, perché poi ha molto il senso della legge, della legalità, delle cose, eccetera. E probabilmente un'altra farà la professione universitaria di fisica, potrebbe, adesso vediamo. Perché insomma, stiamo capendo. Però fatto sta che se io non voglia mi dovesse capitare che uno di questi tre intraprendesse quella professione, non sarei felice, anzi starei malissimo, molto male. Glielo direi pure, perché mi darebbe fastidio. E tu uguale. Tu uguale, fidati, non dire il contrario perché diresti una balla. Pellegrino, le porno star sono merce. Stiamo parlando di Patrizia Pellegrino. Ma chi è? È un ex showgirl. Il fatto che tu non capisci il punto della situazione grave è che si diventa merce, ci si mercifica. Il nostro corpo non può essere una merce. Noi siamo delle donne, abbiamo dei sentimenti, abbiamo dei Pellegrino, valori. Ancora su sto fatto che le porno star sono merce, il corpo è merce. Dai, su. Tutto è merce. Sì, ma cominciamo a dire che non è un lavoro come gli altri. Aspetta. Della segreteria. Bisogna dire alle ragazze, sempre Patrizia Pellegrino, che è orrendo fare la porno star. Giusto. Diventare merce con questi tipi di film, assolutamente mi vede contrarissima questa scelta. E credo che sia giusto dire a quelli che ci stanno ascoltando, soprattutto le ragazze dai 16, 15 in poi di anni che possono fare questa scelta, che è bruttissimo, che è orrendo fare una scelta del genere, che ci si pentirà tantissimo e che bisogna non farla per rispetto ai propri genitori che ti hanno dato la vita e che soffrono nel vedere che i figli fanno delle scelte del genere, per rispetto ai loro futuri figli. Parenzo è praticamente un fan della Pellegrino. Ha detto delle cose di assoluto buon senso, ma che pensi anche tu? E adesso non contro Malena, ma non sono d'accordo, mai. No, assolutamente. Ma che dici? Non la voglio, ma io certo, dico sempre quello che penso. Ma le pensi anche tu? Assolutamente cose. No. Cioè, non pensi che se Dio non voglia capitasse a tua figlia? Ma lascia perdere il caso personale. No, ma quello ti sto dicendo semplicemente che io non dico, ragazzi, ragazze, non fate le porno star. Anzi, dico il contrario. Se avete voglia di guadagnare, di fare le porno star, fatelo. Non c'è niente di disdicevole, fatelo. Hai un tabù tuo che ma che c'entra? Ma non è un tabù comune a tanti genitori. Ma non c'è nessun tabù, allora. Ma lascia ma come perdere. No, ma non ti creerebbe dispiacere? Ma non lo so, non mi finché non mi succede non te lo so dire. Ma no, a me viene guarderei in faccia mia figlia e gli direi: "Sei felice?" Se lei mi dicesse sì, sei felice. Ti proveresti a dissuaderla? A dissuaderla da questo lavoro, mi auguro, spero, ma Pellegrino contro Malena. Faccio le mie scene, le giro, poi torno a casa e sono una persona normale. Normale tutte le altre. Ma non è possibile che tu sia una persona normale. Perché? Come puoi sentirti normale se tu ti fai pagare per usare il tuo corpo in maniera molto intima, cosa che non va bene. Ma io la tua sessualità, Patrizia, così sei molto offensiva, Patrizia, perché non è una personale. Questo non lo accetto. No, non è una prostituta. Tu vendi fino a prova contraria non sono prostituta. Una prostituta. Assolutamente. La nostra ma non si permetta proprio, perché comunque la nostra è una professione, è un'arte, è un mestiere. Quando ero piccola vedevo. No, ma dai, dare della prostituta a una che fa la pornostar, a parte che non bisogna offendersi se ti dà della prostituta. Dunque sbagliano tutte e due. Una che si offende perché non c'è nulla di male, non c'è nulla di strano offendersi, perché se ti danno della prostituta perché ti devi offendere? Non ho capito. Perché ti devi offendere? Perché la prostituta non va bene, allora. Però la puttana, passare... la pornostar sì e la prostituta no. Ma no, ma nessuno dei due, sono due lavori, due lavori. Ma perché sono nessuno due? Dei due? Ma sono cose assolutamente normali. Cioè sono cose che esistono. Ma non lo pensi neanche tu. Capitasse a me io sarei disperato. Io te lo dico, sono sincero. Maria da Milano. Sarei disperato, distrutto, rovinato. Maria Milano. Pronto, sono rovinato. Sarei rovinato. Rovinato, mi dispiacerebbe per lei, sarei distrutto, sarei una persona distrutta, ma anche tu. Vai Maria, dimmi. Parli cara, parli, dai. Sempre caro. Allora niente, telefonavo perché all'inizio della forse come? Allora niente, perché chiama? Sì. No, ma allora niente. Vabbè, prego però, scusi signora, prego. Dimmi Maria, dimmi. Prego Parenzo. Prego, allora, cara. Rispetto per l'età. Sì, scusi, sì, no, non c'è nessun rispetto per niente. Chiedo scusa, non sapevo l'età sua, ma esiste rispetto. Le chiedo profondamente scusa. Ho telefonato perché ho sentito, bravo. Ho telefonato perché ho sentito il signore poveretto che aveva finito il Ramadan e che gliel'avete rovinato, in teoria che Cruciani gliel'ha rovinato. Signor Paco, sì, e che sbroccava, perché vabbè, poverino, era esasperato. Però allora devo dire che continuando a fare questa specie di propaganda decisamente anti-integrazione, perché invitare i padani fuori di testa, no dai, quale propaganda anti-integrazione, allora, ma che dici, allora, Maria, che dici, dai, su, no, io le do del lei, allora, io do del tuo, molto mi piace, niente, mi piace, no, molto, vabbè, non frega niente, comunque io la ascolto da quando c'era San Palmaro, ma chi se ne frega, allora, non me ne frega nulla, ma non me ne frega niente, decisamente diverso, ma va bene, ma lei fa tutto, si può fare tutte le idee che vuole, ma ce ne fottiamo totalmente, ma io non sto zitto per niente, mi lasci parlare, ma questo lo dice lei, molto educata sta signora, mi piace molto, ma non lo so, ma questo che lei chiama si assume le responsabilità del caso, ma io non sto zitto, no, io sono maleducato. Allora cosa si fa telefonare a fare? Scusi, ma fa una trasmissione scema. Io posso decidere quanto lei parla, oppure deve essere lei a deciderlo? Non io ho capito. Telefonato. Arriva la snob di Milano, Maria, a dirmi sì, piace, come sono cambiato. Ma che è mia madre? Che lei usi il ma manco mia madre me lo dice adesso. Forse, purtroppo. Ma nemmeno mia madre me lo dice. Per fortuna no. Si vede che ha sbagliato, poverina. Adesso mi sta pure dicendo dove ha sbagliato mia madre. Roba, no, lei mi dice una cosa, educata, io le do la risposta a quello che lei ha detto. Brava, allora, dimmi quello che devi dirmi. Voglio dirle, un altro livello, voglio rispetto dirle agli altri. Bene. Voglio sapere, questa è una curiosità, sì, proprio semplicemente. Ma non gliene frega nulla a nessuno. Lei ha molto, a me interessa. No, a me interessa molto, a me interessa se lei ha avuto un aumento. Sì. Dell'audience, no, di testosterone ha avuto un aumento. Guardi, testosterone, poverino, glielo auguro. Di testosterone ha avuto un aumento, mi dispiace. Di conseguenza, l'aumento. Sì. Faccio siringoni. Beh, va bene, stia attento perché fa male alla salute. Ma non me ne frega niente, voglio morire giovane. Voglio morire giovane. Voglio morire giovane. Meglio un giorno da leone che tanti da pecora. Questo non c'è dubbio. Beh, in teoria. A me non piace. Ecco, diceva la allora, Bonanno. Lei però, facendo un certo tipo di trasmissione, fa quelli da pecora, non fa quelli da leone. Mm. Posso dirlo? Non ho capito per cui questa allora, sua... No, sì, io l'ho sentita per molti anni. Sì, ma lei è una persona preparata. Ma lei può dire quello che vuole, ma non mi interessa. Sta vendendo. Ma non mi interessa. Ma si venderà lei, si vende. Si venderà lei. È lei che si vende. Lei si vende. Lei si vende. No, io, lei si venderà. Io non ho cambiato. Ma è lei che si vende, ma io che ne so, ma chi la conosce? Ma lei mi sta dicendo che lei si vende, ma si venderà, lei si venderà. Io sono me stesso, è lei che si vende. Ma quello sono cazzi miei. È lei che si vende, no io. Io non mi vendo, non mi sono mai venduto. Vede che lei, pur di fare audience, dice parolacce. Ma io non dico parolacce. Ha avuto un'educazione di tipo diverso. Incredibile. Lei è un borghese nato. Incredibile. Che faceva delle trasmissioni. Vabbè, ma questa è la sua analisi, la rispetto, l'intelligenza o l'intelligenza. Non è lei che sta a giudicarla, se non le piaccio, smette di ascoltarmi e non mi rompa i coglioni, chiaro? Avrebbe ragione. Maleducatissimo. Ma io sarò maleducato. Ma io dico le cose come stanno, chiare, se a lei non va, se a lei non piace, se a lei non piace. Toccati in una io, cosa... ma è lei che mi dà del venduto, mi sono venduto, lei mi incazzo quando lei dice mi sono venduto, lei che l'ha ragione, detto. Se ha capito male. No, ma l'ha capito male, l'ha detto lei, non giri in... Comunque mi pare molto educata sta signora e anche riflessiva. È completamente diverso. Ho detto, parlavo di professionalità, perché ovviamente mamma non riguarda mia, me, palle, se lei si vende o no. Perciò, basta, io però gli ho fatto una domanda, solo quella, volevo sapere se l'audience così aumenta, perché la cosa ovviamente mi preoccupa. Molto semplice. Non penso sia difficile rispondere a una cosa del genere. Non si può rispondere, no, mi sono arrivati i coglioni fino al coso. Ma perché devi fino al pavimento. Al pavimento, grossi, enormi. A me piace pieni, voce, mi sono scocciato di questa signora. No, voce, ma io l'abbraccio fortissimo. Ah, un'educazione, no, l'abbraccio, se non vuole mi abbraccio, chi se ne frega, si no, faccia abbracciare dal muslim, si faccia abbracciare da Parenzo, no, non mi interessa. Non ne ho bisogno, se vuole qualche altro abbraccio, non ne ha bisogno, nel senso che è la pace dei sensi. Lei ha raggiunto la pace dei sensi. No, caro. tutto. Beh, mi sembra proprio di sì. Dalla voce sembra di sì. Dalla voce mi sembra che lei abbia raggiunto la pace dei sensi. Ma sarebbe anche normale. È l'esponente migliore di quella città che è Milano. Che non questa... sono lei, ha sempre sostenuto che avesse una bella voce. Comunque, può anche dire che invece ha una voce Mi piace sopra, molto invece. Delle passioni. Perché una voce non è anche così, rotonda, rassicurante nel modo borghese. Da telefonare a lei per sapere se davvero mi devo aspettare un mondo di questo genere. Ma in quale mondo? Dei fuori quale di mondo? Testa. Ma senta, le telefonano sempre dei suonati pazzeschi. È uno spaccato di società. La buona borghesia di Milano si ribella. Guardi, signora, signora Maria, non si senta la parte migliore della società rispetto ai fuori di testa. Lei si sente la parte snob, la parte evoluta, la parte evoluta della società. Lei è come gli altri, è come Paco Spada di Fuoco. È come Silvano da Bergamo. È come Silvano da Bergamo. Lei è un cretino. Lei è come Silvano. Chiamatemi Silvano. Voglio sentire Silvano. Ma Silvano è un chiamatemi rozzo, Silvano. Silvano e no, lei ha di avere il coraggio di parlare. Troppo facile così. Troppo facile. Brava Maria, non dobbiamo più confrontarci con questa gente. Mi piace molto la Maria perché è troppo facile. Proprio troppo il migliore. Emilio da Como. Emilio da Como. Emilio da Como. Avanti. Emilio. Buonasera Cruciani. Vai, buonasera. Questo Maria. Già mi spaventa. Vabbè, invece, conto già... lo stesso. Volevo fare una domanda, se possibile, a Parenzo. Questo già un po' mi urta invece. Sì, sentiamo, prego. Perché urta se faccio una domanda? No, vai, no, Emilio, vai all'attacco senza paura. Senza paura contro il bigottismo mondiale, persone, internazionale e anche italico, come si dice, o milanese. Due persone che vanno assiduamente nei bordelli. Sì, sì, bravo. Non solo guarda. E uno di questi addirittura si diverte come un matto a raccontare barzellette tra le più sconce e ride anche da solo di quelle che racconta. Schifoso, schifoso. Possiamo chiamarli miserabili oppure sì, no? Ma totalmente, quando mai? Assolutamente totalmente, no. Ma totalmente. Quando mai? Gente ma schifosa, schifosa. Parenzo, cosa mi rispondi? Sì? Sì, sì, gente schifosa, brutta, brutta. Hai detto che gente schifosa e brutta, uno si chiama Amadeus Mozart. L'altro Ludwig van Beethoven. Bravo, erano dei geni. All'attacco. Erano dei geni quelli. Erano dei geni. Erano altri tempi. Questa è la realtà. Altri tempi. Lei non è né Mozart né Beethoven. Lei è solo Emilio da Como. E va, usa i due geni. Un coglione, stai dicendo. Perché totale. Non accetta una realtà. Totale, ho detto. Totale. Ti ha detto che sei un coglione totale. Totale, totale. E usa il signor Mozart, il grande Amadeus Mozart. Il signor Mozart. Per giustificare le sue Emilio, sempre così, sempre così, porcherie sempre così. Concludo con questo racconto di un mio amico. Di ritorno da un bordello austriaco con tre amici, 10 trombate per un totale di 1200 euro. Che squallido. Tre amici, ritorno da un bordello austriaco, 1200 euro. Oggi lo Stato italiano ha perso 200 euro di IVA più le tasse. Gente squallida. Complimenti ai nostri governanti. All'attacco. Legalità della prostituzione, bordelli anche in Italia, abbasso Maria da Milano, viva la zanzara, a domani, ciao! Mi state facendo soffrire stasera, capito? Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi, quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24. Libera la voglia di fare.